Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figo, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Angelo Angelino è tempo buttato, tra gioco, donne e vino io ci sguazzo nel peccato. Angelo Angelino è troppo rincoglionita forte lei, eh? Sono troppo giovane per essere redento. Iniziamo così con la gaffe di La Russa alla Camera. Da Parenzo, clamorosa questa qua, clamorosa. La Russa è una cosa da ridere in questa vicenda drammatica di un governo che non riesce a far dimettere il ministro degli interni perché è strettamente legato a Letta e dunque Letta lo appoggia. Un governo che non sapeva nulla di tutto quello che avveniva, le due kazake prese, 50 uomini impiegati, un governo a sua insaputa, un ministro degli interni a sua insaputa. La Russa. Tempo poco, rivedremo qui la signora e la bambina, che il Kazakistan dirà scusate, ce li rimanda con lo stesso aereo privato con cui è venuto a prenderseli. Ma se non siete riusciti a liberare i due Marò, come sperate di far tornare i due kazakistani? Oh, i kazakistani, i famosi kazakistani. Chi è che ride? Ah. La risata è La Russa questa. La Russa, i kazakistani. No, ma mi dispiace pensarla così, adesso devo pensare un'altra cosa. Perché? Perché mi imbarazza pensare la stessa cosa della Russa, se mi mette proprio in serio imbarazzo. Beh, ieri Farinetti qui da noi l'ha detta grossa, l'ha detta molto grossa. Brunetta è molto arrabbiato per questo, molto molto arrabbiato. Ancora. Brunetta è arrabbiatissimo, si arrabbia con tutti. Dell'umorismo. Beh, insomma, devo dire... Sentiamo Farinetti su Brunetta, noi gli abbiamo chiesto a Farinetti, presidente, fondatore di Italia, eccetera, ma le battute su Brunetta, Brunetta Nano, non sono alla fine le stesse che Calderoli ha fatto nei confronti della Chieng, e lui dice Brunetta un po' se le tira. La nostra ministra non ha fatto nulla per aiutare nessuno, diciamo che Brunetta ogni tanto se le tira, insomma, è sempre arrabbiato, fa parte un po' del partito trasversale dei cattivi. Ha notato che c'è questo partito trasversale in Italia dei cattivi. Poi ovviamente Farinetti su Calderoli scimmia, cui è impedito di entrare nei miei ristoranti. Io inaugurerò l'Italy allo Smeraldo a Milano il 26 novembre, inviterò Maroni, no, Calderoli, è vietato l'ingresso alle scimmie per motivi di igiene dentro tutti gli interni. Scricchiolo alla posizione di Alfano, diciamola tutta, anche dentro il PDL molti sono convinti che tre cariche, vicepresidente del Consiglio, ministro degli interni e segretario del partito, non si possano tenere, non si possono tenere. Sentiamo Galan. L'avvicendamento. Quando uno assume una di quelle cariche, si dedica a quella e basta. Quindi non fa più. Allora, tagliamo la destra al toro, come si dice. Potrei fare una cura ad Alfano di fare poco il segretario di partito. Parenzo, vorrei capire dove cazzo stai, però, scusami. Sono per strada, via Colla di. Come al solito, per strada. Perché per fare la trasmissione non ti metti seduto da qualche parte e non mi rompi i coglioni in questo modo? Grazie. La gente piana mi saluta, come? No, però scusa, perché per fare la trasmissione non ti metti seduto invece di rompermi i coglioni per strada? No, spiegami, non ho capito. Perché non ti metti seduto perché da qualche parte? Questa qua è una trasmissione che vive perché sta tra la gente. Sì. Se tu chiudi una trasmissione dentro le mura è una trasmissione come delle altre. E invece qui siamo a contatto con il popolo, raccontiamo delle storie. Buonasera. Mi salutano tutti per strada. E quindi è una trasmissione che vive così, on the road, raccontando. D'Agostino, stai zitto, D'Agostino, Calderoli si deve dimettere da uomo. Irei in onda. Si chiuderà così, no, un'altra storia italiana da Agostino. No, lui non si deve dimettere da vicepresidente del Senato, no. Si deve dimettere da uomo, perché solamente non è un uomo uno che dice quelle ingiurie, che non so battute. Angelino, mi dispiace tanto, ma proprio io non sono uno spirito di santo. Angelo, Angelino, è tempo buttato, tra gioco, donne e vino, io ci sguazzo nel peccato. Angelo, Angelino, io ti faccio... Siamo qui, 800-24-00-24 con Vittorio Sgarbi. Vittorio, buonasera! Eccolo! Eccoci qui. Che vuoi dire subito a Parenzo in apertura? Subito. È che non trovo che Parenzo sia, dal punto di vista delle idee, molto meglio di La Russa. Quindi il fatto che lui si distingua mi sembra il modo con cui sì. Calderoli si è distinto dal ministro. Quindi non so, io non mi distinguerei da nessun uomo. Scusami Vittorio, ma Alfano che deve fare? Si deve dimettere adeguato a quel posto? Alfano chi è? Qual è Alfano? Alfano il ministro degli interni, sai, lo conosci? Non può essere un ministro degli interni, non fa niente. Cioè, un cameriere di Berlusconi che deve tornare al suo ruolo originale, insomma, quello di fare il cameriere. Questa parte, io credo, e questa è una cosa interessante anche per voi che non la sapete, sia la prima vendetta il fatto che è stato cacciato quel disperato di questo Procaccini, che è quello che ostinatamente volle sciogliere il mio comune. Vedi che i nodi vengono al petto. Beh, ma tu sei fissato con sta cosa dello scioglimento del tuo certo, comune? Perché quello è un atto altrettanto criminale, di cui tu non puoi sospendere la democrazia, sospendere la libertà. Vabbè, dai, su. Ed è un atto totalmente illegale, non c'è nessuno. Ma perché? Chi è stato a sospendere, a sciogliere? È stata quella Alcamo? Che è il comune di Alcamo? No, Alcamo ha fatto, lo sapete bene, 1.400.000 No, ma chi è che Procaccini che cosa fece? Non ho capito bene perché. Allora, il prefetto di Trapani, che non ho mai incontrato, ha mandato la commissione per verificare cosa era capitato, cioè niente. È venuto Parenzo a presentare il suo libro, questo è l'atto più criminale che abbiamo fatto. Il prefetto ha proposto lo scioglimento sulla base di questa commissione e Procaccini ha accolto la sua proposta. Vabbè. Imponendola a quell'altra cameriera della Cancellieri, la quale a me e al magistrato che era con me nel suo ufficio, vabbè, detto: Sgarbi, lei è il miglior sindaco, non scioglieremo. Però la ragione per cui... Beh, adesso però scusa, Procaccini non è che può essere accusato anche di questo. Adesso vabbè, questo no, però dico, ammesso che Alfano sia un deficiente, è vero che le decisioni le prendono i burocrati. Cioè la decisione, il ministro non conta niente, probabilmente l'avrà saputo, ma quella decisione... Ma secondo te lo sapeva o no? Lo sapeva o no di questa roba dei Cazzari? Ma non lo so, ma se l'ha saputo non se ne è accorto, nel senso che è talmente incapace che non ha capito neanche dov'è il Kazakistan. E come mai ha tre cariche? Vice premier? Perché vabbè, ma anche perché Berlusconi non sa distinguere gli uomini, non ce n'è uno buono, ci cioè sono tutti degli animali. Ma detto questo, gli animali sono persone, sono essere creature di Dio, quindi da quel punto di vista anche Alfano va rispettato. Però il problema di fondo è che tutto quello che accade, accade come è accaduto con la Diaz nel 28, le azioni della polizia le fa la polizia. Ora, 50 uomini per catturare due donne, una madre e una bambina, che non erano ricercate, non c'era richiesta di estradizione, il marito, quindi anche ammesso che si volesse estradare qualcuno, se cercano Parenzo non è che estradi sua moglie, cioè i diritti civili elementari non possono essere violati per nessuno, queste erano due donne che stavano in un luogo, non hanno trovato l'uomo, non hanno trovato un delitto, un crimine, ma che dimissioni, galera per Alfano, galera! Ma come galera? Perché galera? Galera perché... C'era la famosa concussione di Berlusconi, 7 anni di galera, e non è capitato niente, perché la concussione è un fatto personale. Vabbè. Io chiamo Ostuni e la Brumbi la libera la via Francia. Ma in questo caso perché... La concussione qual è? Che qualcuno chiama, in questo caso l'ambasciatore pakistano, Procaccini, Procaccini dà ordine e fanno un atto in concussione perfetta, assoluta, 7 anni di galera minimo, è un fatto penale. Io non posso catturare e mandare in Kazakistan persone libere. Cioè, non avevano nessuna. Però pare che tutto sia stato tutto sia avvenuto in maniera formale. Cioè. Non c'è nessuna cosa formalmente corretta, perché queste due hanno scoperto che fossero dei delinquenti, no. C'era una richiesta di estradizione, no. Allora perché non le estradate? Questo è un crimine gravissimo. Ma Alfano, secondo... Io voglio capire una cosa. Galera per Alfano, galera! Comunque, galera. Io sono dell'idea... No, io sono dell'idea che anche se non ha saputo... è un po' eccessivo. Per liberare dalla questura Rume per 4 ore, 7 anni, mandare in Kazakistan, due che non sono ricercate da nessuno, niente, eh? Galera, processo penale, si svegli la Boccassini, apra un'inchiesta. Lui dice che non sapeva, lui dice che non sapeva nulla, Vittorio. Non conta niente, ma non sapeva niente neanche la mia frate, allora che c'entra? Federico, guardiamo i due elementi. No, ma guarda, per me il fatto di non sapere, per me il fatto non sapere non vuol dire niente. Io sono un poliziotto che ho il mio turno e libero Rubi. Per questo condannano Berlusconi. A questo punto io sono un Procaccini o quello con Vicari o Bicchia, che faccio un'azione illecita cacciando dall'Italia, cosa molto più grave che liberare dalla questura due persone libere, e non pago niente? Ma che roba è? Ho capito, ma qui niente, tutti se tu... non c'è processo, niente, è tutto tranquillo. Perché Berlusconi lo difende? Ma lo difende perché non sa neanche di cosa si parla. C'è Berlusconi che non sa bene qual è la materia. Non ha capito bene Kazakistan, non sa dove sia. C'è beh, lo sa bene perché ha accordi. Ma non c'entra in questa cosa qua, non è Berlusconi. A maggior ragione se Berlusconi avesse chiamato Alfano per dirgli fare questa cosa, ma io non credo, sarebbe un'altra conclusione. Però la condizione è molteplice, cioè ci sono varie persone che hanno autorità e fanno una cosa insensata, questo è il problema vero. Ma scusa, perché cioè, ancora, io non riesco a capire, perché ancora lo tiene lì vice premier, ministro degli interni, segretario del PDL, cioè tu è così incapace, come dici tu, e ha tre perché cariche. Non c'è nessuno, non so cosa vuoi che faccia, perché per Berlusconi non ci siamo proprio, ci siamo fuori da ogni... Non sono persone questi qui, sono dei personaggi così abituati a leccare il culo che hanno avuto dei ruoli, ma ti pare che uno dà un ruolo ad Alfano? Ma che ruolo di là ad Alfano? Uno che ha perso nella sua città l'elezione, ma chi è Alfano? Alfano, la Vicari, c'è cioè Gentaglia! Comunque non ce ne frega niente, io non parlo Gentaglia, adesso io esiste un reato penale, qualcuno deve fare, voglio vederli in processo, processati perché hanno violato i diritti civili. E la Bonino, anche no, lei che ragione, è la Bonino che dice di non sapere. La Bonino fa vedere un'altra sopravvalutata che piace a Parenzo, non ne fai della Bonino, un'altra morta di sonno, serve a niente la Bonino. Guarda, ma comunque il problema qui è che c'è un reato evidente. Ma come non se ne la Bonino liberi e si mandano a un processo di non si sa che cosa sì. In luogo. Scusa Parenzo, perché appoggi la Bonino? Non ho capito. Ma come fai? Vittorio, su una cosa ha ragione, sulla inutilità di Alfano, allora, però tu appoggi la Bonino, come al solito ti appoggi la Bonino. Ora, sul fatto che la Bonino Alfano sono la no, come al solito, la Bonino in tutta questa vicenda. Ma come convoca un mese dopo l'ambasciatore kazako, un mese dopo lo convoca? Sì. Ah dai, su. Appena lo ha scoperto. Pure lei non sapeva. Allora, un computer che non ha registrato che un certo passaporto era regolare. Allora, se tu, caro Parenzo o caro Cruciani, sei in un paese libero e hai i documenti a posto, cioè l'estradare qualcuno presuppone un reato. Queste due signore non hanno fatto niente, una è una bambina e l'altra ha i documenti a posto. Se il Ministero degli Esteri non è in grado di capire questo, a caso anche la Bonino, che vado a studiare, sono delle capre incapaci. Allora, intanto, Vittorio, Vittorio. Io non capisco, però a quanto gli pare. Detto qua, fine. Vittorio, un attimo, c'è anche la soluzione oggi. Aspetta, ragazzi, c'è il traffico. Oh, ma c'è la soluzione di Mori, c'è la soluzione di Mori, Vittorio, so che ti interessa particolarmente, Mori assolto, Perfetto. Altro ingroia, galera anche ingroia, un altro delinquente che ha distrutto l'onorabilità di un grande uomo, no, di Matteo e Mori, di Matteo e ingroia, in galera. Le zanzare di casa mia. Detto che i documenti troppo a posto, le due kazake, in particolare ovviamente la signora, i documenti troppo a posto non li avevano, poi ci sono mille dettagli, resta quello che ha detto Sgarbi. Vittorio, scusa un attimo, ma... Scusami, è chiaro che è un pasticcio, quello che io non capisco... Perché... Ma interessante anche questa, abbiamo vissuto con la trattativa e di Matteo che includelisce contro un servitore dello Stato che ha diventato un criminale, assolto Mori, paghino questi delinquenti che inventano processi che non ci sono. Ecco un altro caso di falsa mafia. Il caso Mori è un'altra cosa clamorosa, un'invenzione pura, uno che arresta Rina e viene accusato di favorirlo, ma che roba è? No, Provenzano, Provenzano, non favorire la latitanza di Provenzano, comunque. No, ma è Provenzano da un lato, ma di non avere perquisito il covo di 5 Rina, anni di dibattimento e 100 udienze, 5 anni... 5 anni e soldi nostri, di Matteo in galera, tutti questi magistrati falsi. Scusa un attimo. Stato, no, ma adesso io non ho capito, adesso... Gloria, scusami. Gentaglia! Scusami, non ho capito perché Gentaglia. L'uomo del... Non ho capito adesso perché improvvisamente l'uomo dell'audience, alias Vittorio Sgarbi... Che c'entra l'audience? L'uomo dell'audience. dell'audience, no? Che, ma che vuol dire l'uomo dell'odio? Sta dicendo delle cose, non lo contestare per queste cose qui, contestalo per quello. Detto che Mori era innocente. Quando voi lo attaccavate, quando Parenzo. Mori è un uomo straordinario e Di Matteo è un uomo che deve essere condannato per buttare i soldi dello Stato. Ma io non ho mai attaccato Mori, mai. Mai, ma non capisco perché adesso c'è la gara a difendere la trattativa. Ti difendi dietro i formalismi come al solito, Parenzo. Ma non ti difendi capisco perché adesso l'uomo Sgarbi, professore, lo storico dell'arte, chiede improvvisamente la galera per Ingroia. Improvvisamente. Sì, la galera per Ingroia, per quelli che buttano i soldi dello Stato, per tutti. Siamo stati sui coglioni. Ma quale galera per Ingroia? Quello ha fatto Ingroia in galera, ha buttato dei soldi per il suo teorema. Tu usi lo Stato per le tue teorie. Ha sostenuto ma che Mori quale teorema da questo paese l'obbligatorietà dell'azione penale, che Mori era un criminale, e guarda come lo è. Ora i soldi perché li buttano? Scusa, vedi che la giustizia funziona oggi, cioè, come funziona la giustizia? Funziona, allora che cazzo funziona? È stato assolto, sono buon senso, è stato assolto. È stato assolto dopo che è stato sputtanato in tutti i modi, dopo che abbiamo speso i soldi per dimostrare e intercettare chissà che, dopo che Travaglio ha sostenuto la logica di Ingroia della trattativa. Ma che roba è? Ma intanto si occupa di questo, si inventa i processi? Allora, vorrei capire una cosa, c'è un'altra follia oggi, Parenzo. La follia di oggi è il procuratore capo di Bergamo, la procura di Bergamo, che apre un fascicolo su Calderoli. Adesso si può... Bene. No, ma che bene! Come fai a dire bene? Ma come fai? Basta! È stato sanzionato politicamente, non si è dimesso male. Non si è dimesso... Mancino. Ma perché? Ma quale Mancino, legge certo. Mancino? Perché uno fa una battuta del genere? Dai, che date le rango... C'è una legge, c'è un'ipotesi di reato, si chiama ipotesi di reato. È un altro della trattativa, ma il povero la legge Mancino, ci chiama la legge di reato, si chiama legge Mancino, di reato, ma la legge Mancino esiste o non esiste? Ma che c'entra? Esiste. Cosa perché c'entra? È un criminale, no? Che è in pieno processo perché ha appoggiato la mafia come Mori. È una legge terribile, l'ha fatto un mafioso, perché la evochi? Ma perché evochi? La Bonino, la legge Mancino, il tuo culettino, ma è roba meravigliosa, ma come? La legge Mancino ancora? Siete due persone simpatiche. No, ma il problema, Parenzo, che tu ti limiti, Davide, tu ti limiti a enunciare il fatto, ma c'è una legge, bisogna aprire un fascicolo, ma che vuol dire? Ma ti pare... Ma lavorare. Ma ti pare possibile che la procura di Bergamo, con tutto quello che c'è da fare, apre un fascicolo, perde tempo su una frase di Calderoli? Ma che se ne frega di Calderoli, un altro deficiente, figurati, tu una serie di coglioni. Cioè, comunque, resta il fatto. Ma com'è Calderoli, un deficiente? Calderoli, ma poveretto, insomma, non siamo neanche a parlare di Calderoli. Il problema, c'è un solo problema. Ma poi tu l'hai conosciuto bene, Calderoli, no? Il nostro Cruciani, il suo bambino Parenzo, prendono una casetta a Casal Palocco e hanno dei passaporti e mi recito che siano lì. Qualcuno arriva a casa, 50 uomini di Procaccini che li prendono e li trasportano in Uzbekistan. Ma che roba è? Cioè, questo è un dato, questo è un delitto vero. Altro che rubi, ecco perché parlavo di rubi, altro che le cagate su cui possiamo rompere i coglioni su delle questioni che non esistano. Questa cosa qua è un dato di totale violenza di diritti civili. Fine. Ma io sono d'accordo con te che quello è stato un atto violentissimo. Ho capito, ma il ministro ha responsabilità o no in una cosa? Non deve essere processato e condannato perché è una violenza alla persona. In Italia non mandano via nessuno, poi in Italia non mandano via nessuno. Però Mori l'hanno processato, però Mancino lo processano. Però l'unico che ha pagato è Procaccini. L'unico che ha pagato è Procaccini. E ora Sgarbi è contento di venire perché Procaccini è quello che gli ha sciolto il comune. Ha parlato con l'ambasciatore casacco. Certo, per conto di Alfano. Ha voluto fare un errore al casacco. Ha pensato che la legge fosse meno importante dell'ordine del casacco. Lui, tu hai già deciso che è andata così. Non è che non abbiamo letto consumato, le ha detto il capo della polizia, non è che l'ho detto io. Cioè, avrai visto la cosa del capo con Alfano. Alfano non c'è e lo riceve. Ma anche scusa, ma secondo te, Vittorio? Il suo capo di gabinetto? Vittorio, ma può cadere il governo Letta, secondo te? Ma deve cadere, perché il governo è il governo Letta, dai, perché sono dei governi, questi qui sono delle mozzarelle, non vale neanche la pena di parlare di questa gente. Perché? Io dico, facciamo dei processi dei reati veri, qua c'è un reato vero. hanno inventato due criminali che non erano criminali, le hanno trattate come se fossero delle delinquenti, le hanno umiliate e le hanno estradate senza richiesta di estradizione. Questo è il dato, fine. Tutto il resto non mi pare che sia... E questo chi l'ha fatto? Procaccini, il capo della polizia o quell'altro che era comunque, se anche se non sapeva, Alfano, peggio. Peggio se non sapeva. Sì, peggio. Adesso non so quale potrà essere la condanna per uno che non sapeva. Però non si può non processare. In Italia processano tutti. Processano Mori e non processano Alfano. Beh, adesso tu che sei contro i processi, adesso vuoi processare... No, Alfano. Non è che io sono contro i processi. No, contro i processi. Io sono contro i processi senza l'oggetto. Qui l'oggetto c'è, poi non so quale sia. Non c'è l'oggetto. Scusa, la Boldrini contro Miss Italia? Sgarbi, la Boldrini contro... Quella è inaudita, quella dico, uno potrebbe, le consiglio di andare in burca in spiaggia invece che in bikini. Quando si mette in bikini non espone il suo corpo. Sì. Si fanno delle gare di velocità, si fa lo sport, si fanno le competizioni. Non può fare la competizione e Lucia Bosè, Sofia Loren, cioè Miss Italia può essere brutta in televisione. Sì, certo, beh, certo. Una donna libera che sceglie di mostrare la sua bellezza facendo vedere il suo corpo. E che si dimanda, non ho capito. E lo so, e dire alla Boldrini, perché fa questa uscita la Boldrini? Scusa, spiegami. Perché vuole andare in spiaggia in burca, no? Ha deciso di mettersi in burca in spiaggia perché se si mette in bikini pensano che non ha letto Kafka. Ma non è a leggere Casca, Platone, cioè dico, ma un calciatore legge Platone? Eppure può fare il calciatore, può fare competizione, ma non può fare una la gara di bellezza, ma che roba è? Grazie, sì, ciao Vittorio, a presto. Calderoli, questa qua. Calderoli al confronto il vicepresidente del Senato è un povero deficiente. La Boldrini non sa quello che dice. Peggio, peggio. Grazie, ciao, ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo fiè, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una volta portata. Fortuna il suo discorso è durato poco più di 20 minuti. Se fosse durato mezz'ora probabilmente la colpa sarebbe stata della bambina, perché ci risulta quasi incredibile, incredibile dalla relazione che lei... Questo era Pini della Lega ieri alla Camera, alla fine la colpa magari era della bambina. C'è un Berlusconi del 2010, sentite cosa dice sul leader del Kazakistan. Un leader che è amato giustamente dal suo popolo. Ho visto i sondaggi fatti da un'autorità indipendente che ti hanno segnato, Nursultan, il 92% di stima e di amore dal tuo popolo. Come ti stendi nel letto, quel noioso. E però bisogna aggiungere, caro Parenzo, che rapporti con il cosiddetto dittatore kazako, diciamolo pure, il dittatore kazako li hanno avuti tutti, compreso Prodi, pare, secondo quello che riporta un giornale tedesco, anche con ricche consulenze. Dunque i rapporti li hanno avuti tutti. Tutti. Beh, non c'entra nulla. Non c'entrerà nulla, però i rapporti non è che ci svegliamo adesso che il Kazakistan è una dittatura. I rapporti con questo signore li hanno avuti tutti. Da Vendola a Prodi, passando per Berlusconi, tutti. Ma con la straordinaria rendition di cui parliamo non c'entra nulla. Ma che c'entra? Ma... Certo, non è che gliel'ha consegnati un altro, è evidente che quelle due kazake sono state consegnate dal governo italiano, no? Attuale. Appunto. No, appunto. È chiaro, attuale. Appunto. C'è un governo italiano che comprende anche Letta, c'è anche il Presidente del Consiglio. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Letta difende Alfano, dalla relazione emerge la sua estraneità. Venerdì riferirò in Senato sul caso kazako. Non voglio ombre, ma con Renzi nessun problema. Il caso Alfano fa fibrillare il PD. I senatori renziani hanno mentito al Parlamento, votiamo la sfiducia. La Finocchiaro, il ministro, faccia un gesto responsabile. Il PDL fa muro su Alfano. Cicchito al TG3, beghe interne al PD mettono a rischio la tenuta del governo. Il capo della polizia, gestite male le pressioni dei kazaki. Sempre più poveri in Italia, quasi 10 milioni. 5 milioni le persone in povertà assoluta, un record da 2005, Banca Italia vede nero. Inchiesta Fonsai, ai domiciliari Salvatore Ligresti, in arresto le figlie, ricercato l'altro figlio Paolo. L'accusa, falso in bilancio, manipolazione del mercato. Assolto il generale dei carabinieri Mori, era accusato per il mancato arresto del boss Provenzano, un verdetto che peserà sul processo per la trattativa Stato-mafia. Fu candidato all'Oscar per La vita è bella, dal suo primo romanzo, Un borghese piccolo piccolo, il film con Alberto Sordi. Benigni, per me, è stato un maestro. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito, why don't you go home? Senti, qui ci vuole l'ambulanza quella vera, caro David, ma l'ambulanza quella, lo dico anche con dispiacere, lo dico quasi con pena, guarda, perché non ci vuole solo l'ambulanza, ci vuole l'ambulanza e ci vuole soprattutto che le persone più vicine a lui, le persone che gli sono state sempre accanto come compagni di partito, si prendano cura di lui, perché è finita, uno deve a un certo punto deve capire che è finita, sentite Marco Pannella questa mattina, lo dico davvero senza voler ricordare quell'episodio in cui ci ha mezzo distrutto lo studio a Roma, lo dico con, ma lo dico con sincera pena, dopo aver sentito e visto questa mattina a Rai 1, 1 mattina, Pannella alle prese con due gentili conduttori, Duilio Giammaria e un'altra conduttrice, i quali cercavano semplicemente di farlo parlare sui referendum radicali, no? E sentite come reagisce Pannella, è incredibile, bisogna chiamare la Neuro immediatamente. Denuncio qui ufficialmente, lo Stato italiano rifiuta, dobbiamo aiutarlo, Pannella, però, a riconoscere il reato di tortura. Va bene. Riconosce il reato di tortura e di conseguenza la condizione tecnica di strage in corso. Pannella vuole parlare di referendum o no? Mi scusi, Pannella? Io rispondo sulla base di quello che l'autorità garante, il TAR, ha ingiunto alla RAI di farmi parlare testualmente nelle ore di massimo ascolto sui problemi della giustizia, sì, e delle carceri. Quindi abbiamo, mi date 11 minuti, sì, quindi ne restano 9, allora devo partire subito su questo. Il TAR, Pannella che cita il TAR, roba che sarebbe da abolire immediatamente, TAR e Consigli di Stato, cita il TAR, ma sentite come monta la polemica con il conduttore. Senti, senti. Vuole parlare del referendum che voi avete come... No, appunto, voglio parlare di quello che mi ingiunge l'autorità garante. Pannella, mi scusi, mi ingiunge. Questa non è Radio Radicale, però mi scusi, No, si vede. Siamo qui a parlare dei referendum. Siete da 40 anni una radio di regime che anche voi non so chiedere una cosa. Quello giustamente dice una televisione, casomai, non una radio di regime. Ma cari amici radicali, prendetevi cura di quest'uomo, io gli voglio bene, ma non è possibile, non è possibile mandarlo allo sbaraglio in questo modo. È stato troppo educato. Perché senti, senti ancora, senti, senti ancora, beh, educatissimo, noi avremmo sbroccato già da tempo, Va bene. Siamo qui per parlare dei referendum, Pannella. No, dei referendum. No, io come devo parlare quello di cui ha detto l'autorità garante, cioè? Il TAR del Lazio, della giustizia e delle carceri. Adesso, il tema dei referendum sono quelli della giustizia. I referendum ci sono fra oltre un anno. Vi prego, voglio quel pezzetto in cui dice no, io non devo parlare di questo. Ancora, ancora, ancora. Credo che le firme si raccolgano adesso, però. I morti assassinati. Questo però Pannella l'ha detto. Dobbiamo cercare di aiutare le persone, ma anche le persone giovani come me, per capire i concetti che sono già difficili sui referendum. Le persone come lei non hanno il diritto di essere informate. Appunto, io le chiedo per esempio. No, lei mi chiede quello che è. Abbiamo sì, finito il tempo. No, non vuole domani. Domani allora, conferenza stampa. Senta. Sciopero della fame. E nelle carceri annuncerò come e perché. Vabbè, dai ragazzi, non capisci un cazzo. Basta, basta, dai, Parenzo, anche tu ti devi arrendere di fronte a questa evidenza, dai, basta. Basta, basta, non è possibile, dai, arrenditi anche tu. Non è possibile. Ma è arrenditi anche tu, dire. Non è possibile, dai, ma è controproducente. Cioè, una roba ma del no, genere. Invece no, ma le dai, carceri, su. Le dai. Carceri. No, ho capito, ma senti ancora come finisce, senti. Per esempio, il terzo quesito, lasciamo i primi due, però magistrati dislocati ai vertici delle pubbliche amministrazioni, che vuol dire? Cosa chiedete? Fateci capire meglio. Spiegatelo voi! Me lo dica lei. Voi come RAI a promuovere, che no? Di queste cose. Allora, sentite, ho capito, Io dopo tutto sta sprecando uno spazio utile per voi. Sto sprecando minuti utili, gli ultimi secondi come quelli della sigaretta per i condannati a morte. Ma perché deve finire così? Perché? Perché ragione, uno deve... Ma che ragione, dai, non su! Non capisci un cazzo! Certo. Ancora, dai, dai. Vogliamo parlare dell'abolizione dell'ergastolo, Pannella? Uno dei referendum, l'abolizione, uno dei referendum che voi io proponete. Io non voglio che adesso usiate la scusa per qualche minuto del referendum per continuare contro la legge a impedire di informarvi anche lei sul problema massimo, il vostro problema stato carceri. Come i vostri nonni. Sì, sì, oggi Marco, è c'è in problema. Una situazione di flagranza di reato contro ed è condannata per questo già da 30 anni. Eccoci qui, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Intanto il Partito Democratico con un emendamento chiede che la cassa integrazione sia estesa e chissà perché anche ai dipendenti dei partiti, ai dipendenti dei partiti che per il momento sopravvivono, sopravvivono perché gli stessi partiti non hanno nessuna intenzione di abolire il finanziamento pubblico. La tranche di luglio verrà pagata, verrà data ai partiti e tutto resterà come prima. No! Come? No! No, non ho capito bene. No! No! Abbiamo capito. Non capisci un cazzo. Michele da Padova. E Raico. Dica. Ma io volevo dire su due questioni. La prima è quella del caso che sta coinvolgendo il ministro dell'Interno Alfano. Non capisco niente, scusi, adesso la ricontattiamo. Mina d'Ancona. No. Mina. Salve. Dica. Salve, mi sente? Dica. Allora, questione Chienge, io volevo dire questo, il ministro non deve prendersela, anzi, il ministro Chienge è fortunata. Perché? Io ho avuto modo qualche anno fa di vedere delle foto delle mamme di Calderoli e di Maroni. Delle e mamme? Posso dire che, delle mamme? Sì, le rispettive mamme. Allora? E allora volevo semplicemente dirle che loro, per esempio, sono simpaticissimamente somiglianti a delle scrofe, cioè sono delle scrofe... C'è presente? Com'è che fanno le scrofe? Cioè, secondo lei la mamma fanno di Calderoli... Fanno anche... Dipende poi, anche da come le metti, da come le prendi. Cioè, secondo lei la mamma di Calderoli e la mamma di Maroni sono delle scrofe oppure... No, io non ho detto che sono delle scrofe. Assomigliano a delle scrofe? Somigliano simpaticissimamente, tra l'altro, come il ministro Chienge somiglia ad un orangutano. Però perché lei se la prende? Perché se la prende con la madre di Calderoli o la madre? Le pare che me la sto prendendo, cioè le sto facendo un parallelismo proprio per giustificare anche la leggerezza con cui penso Calderoli si sia espresso. Non penso che abbia avuto delle cattive intenzioni, come. Senta, ci sono poche discussioni su questo. Quando uno dà dell'orango a un ministro, lo fa per disprezzarlo, cioè non lo fa per, non lo fa semplicemente per fotografare una cosa o per attribuire un animale a una persona. Su questo non ci sono dubbi. Uno anzi dovrebbe difendere fino in fondo questa cosa. A me i passi indietro mi fanno schifo. Cioè uno dovrebbe difendere, sì, faccio una battuta alla Chienge perché penso che una nera possa essere accostata a una scimmia. Uno dovrebbe difendere fino in fondo questa cosa, invece no, i passi indietro, Cruciani, mi scuso, questo mi fa schifo, mi fanno schifo i passi indietro. Uno se ha detto una cosa e la pensa e l'ha detta 40.000 volte in privato e gli capita di dirla in pubblico, deve andare avanti, non tornare indietro, non scusarsi quando poi non si è scusato per niente, dai. Giacco, però le posso dire una cosa, mi scusi prima che mi lasci. D'Agostino ieri in onda ha fatto un intervento fondamentale, forse come chiave di lettura della questione. E le spiego perché, quando si riferiva a quei bambini che in classe si ritrovano a dover affrontare poi questi atteggiamenti fatti da bambini, quindi si capisce la differenza tra Calderoli e bambini, forse no, quando avvengono quando si creano queste situazioni, è lì che dovremmo noi colpire in maniera dura. Ma colpire in maniera dura che significa? Calderoli, ma che significa colpire in maniera, eliminare come? Non ho capito. Calderoli deve assolutamente abbandonare la sua carica. Vabbè, ma lasciamo perdere, ma chi è se ne frega? Ma democrazia. Sì, ma d'accordo, d'accordo, ma è assurdo. Da zero. L'Italia deve ricominciare. Vabbè, ricominciare da zero, ho capito, Mina. La cosa più assurda è l'apertura di un'indagine per istigazione all'odio razziale, non so che cosa, per una battuta del genere, una battuta vergognosa e ridicola, non va a finire in tribunale. Ma voi ve lo immaginate un tribunale che decide su questa battuta di Calderoli, che perde tempo e soldi per decidere se Calderoli va condannato per istigazione all'odio razziale perché ha detto che il ministro assomiglia a un orango? Ma non diciamo puttanate, dai, su. Beh, non dire puttanate, se ci pensi anche tu sei contrario diciamo a questa cosa. Possono decidere anche di archiviare e non fare alcun ma perché sei sempre attaccato alla forma? E hanno aperto, si possono anche non aprire le inchieste, non bisogna aprire per forza. Una cosa strumentalizzata, un errore durante un comizio dove può scappare la parola, strumentalizzato, i veri razzisti sono quelli che hanno messo ministro e vanno a fare le fotografie solo perché è nero, per farsi vedere non razzisti, quelli sono i veri razzisti. Cioè, i veri razzisti, secondo Bossi, sono quelli che hanno messo lì la Chieng perché nera. Ora, io su questa cosa qui ho già detto sì dall'inizio, caro Parenzo, che il ministro è stato messo lì non in quanto competente, su questo Giovanni Sartori ha perfettamente ragione, ma in quanto simbolo, ma in quanto è una cosa che è sbagliata sempre, sbagliata sempre. Beh no, la politica è fatta anche di simboli, eh. Per me invece non bisogna utilizzare queste cose. La politica, anzi, a volte è molto evocativa, ma nel caso è una donna di competenza perché si è sempre occupata anche di... Allora, sei... come dire, colpito dalla condanna a 13 mesi e 13.000 euro di multa, te lo ricordi? Di quella leghista Dolores Balandro che disse: ma nessuno pensa allo stupro, mai nessuno che la stupri, rivolta alla Chieng. Sei colpito? Sei commosso? Sei dispiaciuto per questa condanna a 13 mesi e 13.000 euro? Sono semplicemente soddisfatto. Beh, soddisfatto, dai, dillo. Come? Sono più che soddisfatto, sono contento, sono molto strafelice. Sono molto felice, e la giustizia mi pare anche. Cioè, sei strafelice che Dolores Balandro, la leghista che sì, fece scoppiare un caso pazzesco. Ma gliel'ho detto tempo fa quando tu la collegasti alla zanzara. No, guarda che non ci siamo mai riusciti a parlare. O lei chiudeva il telefono, io l'ho visto già all'epoca, spero che la condannino, ma oggi sono molto felice, anzi forse le ho dato troppo poco, perché una è stata una violenza inaudita quella frase. Beh, non ha fatto niente, non ha fatto niente, ha scritto una frase. Perché comunque le frasi non ti possono no, uccidere. No, per carità, ma guarda, anch'io sono, devo dire che non ho un minimo di pietà su questa storia, Sono molto felice. Lei era in lacrime davanti al giudice, però forse doveva pensarci prima. Le cose che si scrivono sono fondamentali, sono importanti. Uno non può scrivere mai nessuno che la stupri, perché ti guardano, ti ascoltano decine e decine di persone. Giorgio da Cuneo, buonasera. Sì, buonasera signor Parenzo, buonasera. Sì, sono Cruciani, ma va bene lo stesso, c'è anche Parenzo. Ciao caro. Ciao, ma è troppo forte, io Parenzo li voglio troppo bene. Bene, bene così, ma dica. Voglio prevaricarla, dottor Cruciani. No, no, allora, non io mi prevarica. Io intervengo per questo. La donna kazaka, la Shabalayeva, sicuramente un errore. Cioè, se, povero Alfano, io provo una pena mista tenerezza per quell'uomo. Perché, poverino, non mi può stare antipatico, se non sapeva nulla è una vergogna tutta italiana, come al solito. Se lo sapeva è un inetto, ma più che altro Leni in Kazakistan ci lavora, ha delle concessioni grosse. Certo, allora riusciamo anche a farci questa figuraccia? Cioè, dunque? È pazzesco una cosa del genere. In che senso figuraccia, scusi? Quando ci va qualcosa bene, abbiamo delle grosse commesse nel sì, ma in questo caso come lei può intuire, forse abbiamo fatto un favore al governo del Kazakistan, dunque sicuramente non ci rimettiamo da questo punto di certo, vista. Certo, il favore e è fatto, allora ma che allora non torniamo indietro. Ma nessuno sta tornando indietro. Il problema è molto semplice qui. Lasciamo da parte le questioni geopolitiche. Il problema è politico e tutto italiano. Perché uno non si può dimettere dal ministro degli interni? Perché altrimenti, questa è la linea al momento del PDL, cade tutto il governo. Però non si può attribuire la responsabilità solamente ai funzionari. Cioè, non è possibile. Ci sono anche se non sapeva, certo, è molto peggio. Certo. Cioè, è molto peggio non sapere. Certo. Salvatore da Bari. C'è anche l'Abonino, certo. Davide della provincia di Mantova. Buonasera, Lorenzo. Dica. Buonasera, Luciani. Ma ciao, così, caro, sono ciao. Divertito e molto combattuto fra l'infierire o assolvere tutte le situazioni che voi avete sapientemente enunciato. Vorrei parlare della questione legata al generale Mori, il quale generale Mori viene assolto, però naturalmente anche se viene assolto qui la giustizia usa un peso e una misura, perché comunque in una precedente sentenza, nel processo. Sì, però non sia lui, Davide. Davide, Davide, abbia pazienza. Davide, Davide. Dica. Abbia pazienza adesso. Sia un po' veloce, però. Non è che possiamo sentire tutta la predica, il processo precedente, eccetera, eccetera. Arrivi al processo. No, ma lei deve essere veloce. Sentenziato che questa situazione era presente. Sì. Allora? Quantomeno era stata impostata questa trattativa ed è nella sentenza. Va bene, Davide, non mi interessa. Però quale conclusione vuole? Tanto la conclusione è che la giustizia usa due pesi e due misure. Benissimo, bene. Poi, e lo fa anche nel caso della consigliera Valandro, mi sembra, nel caso dello zio Fester, perché ricordiamoci, Buon Cardeoli è conosciuto anche con Zio Fester, va bene, grazie. No, su questa cosa però scusami, che sicuramente è poco interessante, poco appassionante, ecco, però appunto. La gente che ci ascolta lo deve sapere. Che cosa? Sulla, perché Sgarbi lo hai fatto sproloquiare, lo ma hai su fatto dubitare su questa roba di Mori. Io dico solo una roba, e poi chiudimi e mandami a quel paese. Negli stati democratici non esistono poteri sopra la legge. Cioè, sì, ma uno può criticare il fatto che alcuni magistrati si inventano delle teorie o no? Oppure per te va tutto bene? Sì. Per te va sempre bene? E allora basta, quello criticava. Dai. Mori dimostra che il generale è stato assolto. Sì, ma questo è facile dirlo, è facile dirlo, capito? È facile dirlo. Non esistono persone sciolte dalla legge. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente, è una frase ridicola, è una frase banale, è una frase banale, è una frase banale, è una frase banale. Banale, come della vicenda Mancino. Sei scontato. No. Certo che non devono esistere uomini al di sopra e della allora, legge. Non rompiamo i coglioni. Vabbè. Nel 2011, dicembre 2011, Bendola festeggiava l'indipendenza del Kazakistan a Bari con l'ambasciatore all'epoca, che non è quello attuale, e il solito codazzo di imprese al seguito. Non c'entra niente con l'estradizione delle due, però i rapporti con il dittatore kazako li hanno tenuti tutti, da Prodi a Vendola a tutti i governi italiani, fottendosene dei diritti umani. Gianpiero Mughini, buonasera. Eccoci. Come stai, Gianpiero? Molto caro? Bene. Al peggio non c'è mai fine. Lo so, a che ti riferisci, scusami, caro? Alla considerazione generale sul nostro presente. Vabbè. E dunque all'umore generale di ciascun cittadino italiano. Scusami un attimo, ma questa vicenda kazaka non so se ti appassiona particolarmente. Ti appassiona oppure no? Beh, è naturalmente l'ennesima occasione in cui l'Italia fa una figura di merda, mi sbaglio? No, assolutamente, non ti sbagli. Assolutamente, poi nella faccenda, come tu dici, dei rapporti col Kazakistan, ci siano dei buoni e dei cattivi, sono cose da raccontare ai bambini. Sì. Il problema dei nostri rapporti col Kazakistan è il petrolio è comodo a tutti, capisci? Ecco, ma ti pare possibile che Alfano non sapesse di questa vicenda qua? No, non mi pare possibile. Non mi pare possibile che un'operazione comunque in grande stile, sì, che era, badate bene, destinata a individuare lui, il marito, che invece non hanno preso, però che un'operazione in grande stile con messa a disposizione di un aeroporto, uomini che insomma molto risoluti, addirittura donne, molto donne poliziotto, sì, molto risolute a quanto ha raccontato la signora, tutto questo si fosse messo in moto per iniziativa di un poliziotto di quartiere. Beh, di quartiere proprio no, ma comunque insomma. Ma sì, vabbè, ma insomma c'è una scala gerarchica. Poi se non sapeva era ancora peggio, se non sapeva era ancora peggio secondo me. Cioè, se non sapeva era un'altra valenza del paradosso italiano. Scusa un attimo Giampiero, ma invece tornando sulla vicenda Calderoli, no? Poi oggi c'è addirittura un altro consigliere della Lega che dice che deve tornare nella giungla, c'è una delle sparate quotidiane, perché secondo te non c'è qualcosa che lo possa far dimettere da vicepresidente del Senato? Non succede nulla? Ma sai, in altri paesi quando beccano una figura pubblica che non ha pagato i contributi alla cameriera, quello si dimette immantinente, non è che la fa lunga, immantinente quello si dimette. Qui in Italia il vicepresidente del Senato, che non è mica una cosa da niente, dopo avere detto delle oscenità inimmaginabili che fanno vergogna all'essere umano che si cela in lui, dopo aver detto queste oscenità ritiene che siccome la richiesta di dimissioni non è sufficientemente ampia, lui rimanga lì ad essere il vicepresidente del Senato. Che volete dire? Ma sai, la questione di Calderoli per me era affascinante. Cioè perché? Perché, perché come tu sai il personaggio non è quello che lui appare, lui ci fa molto, ma lui non è, lui ci fa molto. Quindi la dialettica, è stato detto, tra il dottor Jekyll e Mr. Hyde, che in lui è veramente quando tu lo guardi, a cosa pensi? Quando tu io quando lo guardo, da che mondo è mondo, perdonami Giuseppe, a guardare una persona uno non emette alcun giudizio. No, guardandolo, vedi, quando lo senti parlare, non emette il giudizio. Quando lo sento parlare, in chiave sparate, perché non è la prima che fa, ha creato dei problemi anche internazionali, con le sue magliette, eccetera, e così via, mi vengono i brividi. Io poi, nel sapere che dietro questa corteccia spaventosa esibita nella vetrina della politica demagogica esiste poi un uomo più complesso, io sono molto interessato, come tu sai, agli aspetti letterari, perché agli aspetti osceni che cosa vuoi aggiungere? No, l'oscenità no, gli aspetti letterari c'è, quasi psicologici, dici tu, quasi. Ma da... è vero? Sì, ma sì, io penso che lui queste sparate ritenga che gli facciano giovamento presso la base, la più rozza leghista, che poi ormai sono quattro gatti. Dici, sono ridotti. Fare tutto sto casino per quattro gatti, sì. Sono ridotti ai minimi termini. 3,6, 3,6. Cioè, anche il nostro amico Farinetti, però ieri Parenzo ha esagerato, dai, quando ha detto che Calderoli non può essere permesso di entrare nei suoi ristoranti. Vabbè, ho capito, gli ha dato della scimmia, dai. No, ma non vanno detto. Ma poi Giuseppe, va ricordato che la porcata detta da Calderoli si scrive in un generale romanzo pubblico italiano, dove la macchietta insegue la macchietta, l'oscenità insegue l'oscenità. E noi siamo maestri? E noi siamo qui. Almeno noi qui alla Zanzara siamo maestri nell'inseguire queste cose, come sai. Con i tuoi rimproveri, con i miei assoluti rimproveri, perché le macchiette bisognerebbe seppellirle nello stomaco. Ma io ogni tanto, quando sento le macchiette parlare, quando mando in onda certe cose, ti penso, quando hai, come dire, quando ci ascolti, penso alle tue reazioni. Qualche volta ti confesso, a me non fa piacere che queste macchiette abbiano una tale vetrina. Tu hai grande ritmo, grande sapienza. Tu e quel signore che ti sta accanto, di cui mi sfugge il nome, l'ho visto l'altra volta in televisione, ma mi sfugge il nome. È vero, avete grande sapienza nel condurre l'orchestra, e però giocate, il vostro casting è un casting notevolmente di magia. Beh, il nostro caro Mulini, come si chiama? Malini? No, Mughini. No, mi chiamo Giovan Battista Alessandretti. Sì. Ecco, Giovanni Vivere Sandelli, il nostro è un fabulato sceno quotidiano, questo è il nostro. Ma dove sei, fabulato... scusa? Innanzitutto che non si sente un cazzo come al solito. Conosci il posto dove sono? No, Giampiero, tu, è Parenzo che sto dicendo. Vuoi sapere dove sono? Dimmi, dove sei? Al bagno come al solito, hai tirato l'acqua del cesso. Ma è possibile che a quest'ora tu vai sempre in bagno? Io vorrei capire questo. Dunque, come diavolo, ecco, è possibile che alle 19:40-45 di ogni santissimo giorno, proprio in questo momento, tu tiri l'acqua del cesso e sei in bagno? Ma d'altra parte, scusa, da quel che è Parenzo, tu che cosa ti aspetti? Da quel che è Parenzo, non è che ti puoi aspettare. Scusa, ma che è successo tra voi due? Penso che la nostra trasmissione in generi questo tipo di effetti dovrebbe lusingarti. Sì, ma lusinga moltissimo, perché le mani nelle fogne. No, ma a me mettere le mani nelle fogne piace tantissimo, come sai. Ma io una volta andavo di corpo la mattina, adesso da quando faccio la zanzara, da 3 anni a questa parte, alle 19:40. Posso assentarmi un attimo e perdere questi discorsi? No, in fondo a questi discorsi un pochino piacciono pure a Mochini. Poco, sicuro? Poco. No, io sai, poi io sono... Hai pagato le tasse? Hai pagato le tasse innanzitutto nel periodo? Ci mancherebbe, ieri ho pagato il razzo, ci mancherebbe. Ma com'era l'umore? Sai, io come ti ho sempre detto, penso che un cittadino responsabile debba pagare le tasse, debba assolutamente. Però com'era orgoglioso di pagare le tasse. Però il sentimento qual era? Un sentimento di rapina, il termine rapina, perdonami Giuseppe, è troppo facile, lasciamolo usare ai populisti e ai demagoghi irresponsabili. Se questo paese cammina nel senso che per strada ci sono le luci, che i medici vengono pagati a fine mese, i poliziotti quel poco vengono pagati a fine mese, eccetera, è perché un certo numero di cittadini paga le tasse, ma ci mancherebbe altro. Senti, ma poi naturalmente che siano molte. Che siano molte, questo è il punto, però io non sono contento, devo dire la verità, pago. Ma cosa vuoi fare con i conti che ha l'Italia? Scusa, ma tu ti rendi conto di quanto prende il segretario generale della Camera? È un funzionario importante, è un funzionario importante, per carità, nessuno lo mette in dubbio, però. Ma lì sai, è tutto su scala, tu ti ricordi, sono state fatte le tabelle, lì non solo il segretario, ma anche il barbiere, dai, fanno un autotrattamento, la politica tratta se stessa con grande generosità, tanto mica sono soldi loro. No, oltre che la politica, anche la Camera e il Senato. Camera e il Senato di che cosa fanno parte? Sì, però il problema è la burocrazia, il problema sono i sindaci, hanno 11... Ma la burocrazia, come tu sai, è funzionale, perché è la burocrazia di cui necessita... quella casta, quella macchina, casta è termine troppo spiccio, quella macchina assolutamente, quanti sono? 1000 parlamentari? Se fossero 300 sarebbero più che sufficienti. 300 ma più che sufficienti. Alla grandissima. Cioè, più che sufficienti. 300, di cui 270 non contano nulla, e 30 capi corrente che dicono che bisogna abbassare o non abbassare l'IMU, perché di questo è fatta la nostra politica. Ma tu andresti a cena con Calderoli? Ah sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, e gli porterei i saluti della Chieng e poi sono sicuro che lui starebbe grandemente al gioco, ma certamente, dai, su via, anzi ti dico che se dovessi fare un elenco, uno dei primi, io poi non vado a cena mai con nessuno, esco da casa solo per andare all'edicola, ma se dovessi una volta, eccetera, non mi dispiacerebbe per niente, ma proprio perché... per conoscere la psiche dell'uomo, insomma. Ma no. Dio, ma perché, scusami, tu non saresti andato a cena con Hitler, scusami, dai. Beh, assolutamente sì. Assolutamente. Devo Calderoli. Dire, cioè, se uno dovesse scegliere andare a cena con la Chieng o con Calderoli, vado a cena con Calderoli, sicuro. Sì. Assolutamente così. Assolutamente così. Assolutamente, si è detto con tutto, no, rispetto. Beh, è chiaro, però è assolutamente perché, così come se dovessi andare la Chieng che te deve dire alla fine l'ultima che mi verrebbe in mente di andare la Boldrini, a Chiena, la Boldrini. Con tutte le l'ultima tra Kate Moss e la Boldrini, sì, esatto. No, ma anche l'ultima. Insomma, una banalità che non sia una cioè tra la Bindi e la Boldrini la Bindi tutta la vita. Beh, la Bindi ha una storia, Beh, sì, è certo. Una storia di io ma già, vuole vietare Miss Italia, non gli va a genio Miss Italia, e soprattutto vuole che le donne siano tutte coperte, che le pubblicità non si possono fare quelle con un piccolo seno di fuori. Dai, non su, mi mettere Jean-Pierre. Di cattivo umore, non mi mettere di cattivo umore, il solo pensiero, la pubblicità, per quanto lì eccetera, impudente, vabbè, ripetuta, vabbè. Ma le belle ragazze Dio ce le ha date e guai a chi ce le tocca. Poi naturalmente se uno è così cretino a non capire che quella per l'appunto è pubblicità, allora è talmente cretino che è un altro discorso. Sì, ma poi io non capisco una cosa, perché il presidente della Camera deve parlare della pubblicità e di Miss Italia? Ma si limiti a condurre bene i lavori parlamentari e pertanto ma è assente? Scusa, il presidente della Camera che ha sputato in faccia al capo della Fiat un no, al capo della più importante industria italiana, ma sono cose dell'altro mondo. Ma perché ha fatto no, benissimo, Parenzo? Come benissimo. Fai a dire queste stronzate? Ma perché ha fatto lì benissimo? Ha fatto benissimo. Lì è una questione politica. Ma, no, ma politica, ma quella... Smettila, Parenzo, ma non dire fesserie. È il presidente ma della Camera. Ha fatto benissimo, benissimo. Ma facesse ma il capo politico. Io vi seguo, io seguo Giampiero Mulini sulla questione, sulla vicenda del corpo e della stupidità. È detto dalla terza carica dello Stato in mezzo a Miss Italia sulla questione Marchionne, amici miei, ma perché? Ma quella è ancora più grave. Dai, ma quella è ancora più grave, stiamo parlando della più grande industria italiana, non si può scherzare con queste cose, non si può scherzare con queste cose, lasciagliele dire a dei sindacalisti della FIOM un po' semplicisti o comunque molto appassionati, ma non il presidente della Camera. No, perché la terza carica dello Stato non può fare con questo una scelta politica. No, deve stare, non può dire. Ma non dire cose che sono prive di senso, David. Non sì, bestemmiare in pubblico, che è peccato mortale. Se dai, il capo della Fiat ti invita in una fabbrica, tu, presidente mondo. Della Camera, che vai ovunque a tagliare nastri, a dire minchiate, ci vai e incontri gli operai. E non rompi i coglioni. No, incontri innanzitutto il capo della Fiat. No. E poi incontri chi vuoi. E innanzitutto il capo della Fiat. Senza il quale capo della Fiat, la Fiat sarebbe affondata 5-6 anni fa. Vabbè, hai capito, David? E non venivano a cercare lavoro da te. Ma questa è un'altra discussione. No, lei è la discussione. Ma non lei deve fare scelte politiche. È il presidente della Camera. È la terza. Tu che ti riempi tanto la bocca delle cose mica formali. Deve ricevere chiunque. Comunque, torniamo alle donne. Reputando che Marchionne ha fatto delle cose disdicevoli, è un suo legittimo punto di vista. Ma non fa il capo di SEL. Non fa il capo di SEL. È il presidente. Allora, chi se ne frega? Qualche volta invece questa cosa conta, e qualche volta no. Se parliamo così di Calderoli, se Calderoli non può fare il vicepresidente del Senato perché ha detto quelle cose. Ma mi pare che siano cose un po' di no, pare che ho cose, capito, però è una questione politica, altra è una battuta razzista. Sono però scusate, Giampiero, prima di lasciarti, perché è così ossessionato dalle donne, secondo te, coperte, la signora Boldrini? Beh, ossessionato dalle donne. Lei è l'attrice di un pensiero banalizzante, di un pensiero che non chiamerò bigotto, no, non è assolutamente così, è bigotto. Ritengono che tra la dignità delle donne e diciamo la loro vanità, come dire, l'apparenza erotica, ci sia un'antitesi. Per fortuna la bellezza del romanzo femminile sta nel fatto che tutte le qualità delle donne, l'intelligenza, l'ironia, la creatività, la bellezza, l'impudenza, capisci? Io quando dico di una donna che ha l'andamento di una zoccola, le voglio fare un gran complimento, un gran complimento. E con questo chiudiamo. Ciao Giampiero, ti abbraccio. Sei ancora a casa, Evo? Sì, certo che siamo qui, la Zanzara 800 24 00 24, dopo uno straordinario Giampiero Mughini, grande battaglia con Parenzo sulla questione Boldrini, così mi piace. No, però è Marchionne. Boldrini, Marchionne, beh, uguale, insomma. Ma Marchionne. Chi è questo leghista trentino avrebbe, perché no, c'è anche un video. Ex leghista in realtà. Nella giungla non è razzismo. Sì, no, tornasse nella giungla, una cosa di questo tipo. È un ex leghista del Trentino, un consigliere locale. Un ex leghista. Sì, è già uscito dalla Lega, nemmeno la Lega lo sopportava per aver detto un'altra stronzata. Appunto. tutti da là vengono però. Alfonso da Foggia, eccoci qui Alfonso. Dica. Programma bellissimo che ironizza su tutti, ma non su Marco Pannella. Noi pigliamo per il culo quando ci pare. Senta, a me del passato non me ne frega nulla. Lo è ancora, lo è ancora. Ma vabbè, ma non mi interessa, lo è ancora. Ma che personaggi abbiamo avuto? Pasolini, Moravia, Sciascia, Zeman, Pannella. Guardi, io sono anche, io sono anche affezionato. Fantozzi è accostato a Pannella, questo mi piace. No, però, guardi, anche lista Pannella, Fantozzi. Uno non può andare a uno mattina, a uno mattina dove ti offrono i tappeti, dove ti mettono i tappeti rossi, in pratica, lo dico con grande rispetto. Scusa, ti mettono i tappeti rossi e sbroccare contro, può sbroccare contro di noi. Ma se c'ha nei confronti della Rai, che in 20 anni l'ha invitato 3 volte. Ma quale 3 volte? Ma non è vero, ma va. Pannella mai. Aspetti, aspetti, aspetti. Il grande di Parenzo che non l'ha invitato neanche a quel suo programma, poi si spaccia di essere radicale. Ma che c'entra? Ma non è che uno deve invitare tutti, ma che vuol dire? Ma Pannella mai. Ma che vuol dire? Ma basta con questa storia del Biancino. Ha condannato la Rai per i mancati inviti di Pannella negli ultimi 20 anni. Ma il TAR del Lazio deve essere abolito, il TAR del Lazio. No, d'accordo, ma siccome esiste, almeno c'è sta qualche cosa. Vabbè, senta. Ma non è possibile. Ma non è possibile cosa? Ma Pannella grande dove che ha sbroccato? Ma sentiamo ancora. Ma no, aborto, divorzio, legalizzare le droghe, come si chiama, i militari, il servizio civile, tutto a Pannella dobbiamo, quel poco che abbiamo in Italia, che veramente è un paese di merda, almeno Pannella è l'unico che si sa. E poi è vero, c'ha sul fatto che si appiattisce sui carcerati, ha perso la testa, ha perso la testa, ha perso la testa, ha perso la testa, ha perso, Pannella è fortissimo, Pannella è il più grande personaggio del secolo, insieme a Zeman è il più grande personaggio del secolo, ha perso la testa, non è vero, Pannella è una persona, ha perso la testa. Vuole parlare del referendum che voi avete, come no, appunto, voglio parlare di quello che mi ingiunge Pannella, l'autorità, non è uno garante. Spazio autogestito. Pannella, mi scusi. Mi ingiunge. Questa non è Radio Radicale, però mi scusi, No, si vede. Siamo qui siete a parlare dei referendum. Anni una radio di regime che una anche televisione voi, posso chiedere non una mi rendete conto. Dai, su, ma è inaccettabile, cioè inaccettabile, mi viene francamente provo un po' di pena, cioè per chi ma lo no, manda ancora, no, per chi lo manda ancora a Rai 1. Non capisci un cazzo. Non capirò un cazzo, però è così. Vabbè. Grazie, come vedete, no, l'intervento, buonasera. Marco, Giacinto, ha detto Marco, è così, quindi è bello così, è bello perché va lì, ti scassa il giocattolo, quindi ti fai la domanda. Ma non scassa il giocattolo, fa la figura del pazzo, ubriacone. No, dai, no, no. Beh, no, sì, Marco, sì. L'unico errore che ha fatto me... quando ha cercato di distruggervi lo studio, questo sì. Vabbè, ma no, lasciamo perdere. È l'unico errore che ha fatto in vita sua. Lo ha sempre fatto quando andava in televisione vestito da Babbo Natale, quando aveva il cartello. Ma quello era diverso, ma è diverso, qui è lo sbrocco, hai capito? Qui ha perso la testa, è diversa la cosa. Cioè qui ha perso la codenna. No, la testa l'ha persa la corte costituzionale, che in verità è corte massonica, in mano al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Consiglio di Stato, dove abbiamo noi con Pierpaolo. Ma che c'entra Pierpaolo, scusa? Gronchi. Ma che c'entra Gronchi? È morto. Ah, c'era, sì, ho capito. Gronchi, quello del Gronchi. Ma scusi, ma perché si è comportato così alla RAI? Perché si è comportato così? Perché la RAI dei partiti in cui hanno piazzato della gente in mano a loro, della cosca Partito Grande di Politica. Non capisci un cazzo. Bene. Dove noi Radio Radicale siamo servizio pubblico, noi. No! No. Ho capito. Felice da Roma. Felice? Sì, pronto. Dica. Ho chiamato perché volevo fare i complimenti a Parenzo per come ieri ha condotto l'intervista agli operai del Sulcis. Sì, vabbè, ha fatto i complimenti a Parenzo, va bene, d'accordo. Ha esordito dicendo che nel giorno in cui in tribunale si parlava del caso Cazzago, loro stavano lì a protestare, poi dopo però in tribunale, si è meravigliato perché questa gente si è incazzata e voleva, minacciava di buttare le bombe, capito? Quindi bello, bel qualunquismo, bella espressione di qualunquismo da parte di Parenzo, insomma, in linea con poi non nel personaggio. Tribunale, ancora una volta lei ha perso un'occasione per lavarsi le orecchie. Mi dispiace, che simpatico. Beh, non è simpatico, avrai una corazza di cerume giallo, evidentemente, sì, perché certo, non certo, senti. Certo, lo capisco, perché sì. Se uno non usa il no, perché il argomenta anche, veramente, guarda, veramente. Sai cos'è? Certo. Che siccome hai sentito male, sentendo sì. male hai capito male, ma io ora ti spiego se vuoi invece. Sì, ti sì, spiego perché non ho detto quello che tu pensi di aver sentito, che fa la pannella, io non ho detto quello che tu pensi di aver sentito, io all'inizio di quel collegamento ho detto, nel giorno in cui il signor Alfano, ministro degli interni, no, riferisce... ma stato un operaio lì, l'avrei preso a calci nel culo, perché dice, ma come, ce ne prendi in giro a noi? Cioè, prima, perché ci prende? È come se il giorno dopo... Ma non hai capito, che la Roma ha vinto con la Lazio, ma lì i vostri il vostro presidente sta in America, quelli si incazzano. Non hai capito, ma non è un crimine. Nel giorno in cui il Parlamento sta parlando del caso Gazzago, la trasmissione partiva dalla... No, fermi. Va bene, basta ragazzi, ma chi se ne frega? Dai, Claudio... appunto, Felice, basta. Claudio da Roma, basta. Salvatore da Bari, ma lascialo perdere, lascialo perdere. Di che cosa è felice? Non ho capito, felice. Sì, chi è? Pronto? Chi è? Sono Salvatore, da Bari. Dica. Ecco, no, temo che anche la Bonino abbia perso un po' la testa. In che senso? Sulla questione delle due casacche. Perché? Perché, dalle sue dichiarazioni si evince che lei sapeva che qualcosa non andava almeno dagli inizi di giugno. Sì, perché non ha parlato fino adesso, dice lei? No, il problema è che ha parlato, cioè prima ancora della relazione del dottor Panza, lei nelle sue interviste ha difeso, non so per quale motivo, la versione di Alfano, cioè che il ministro degli interni non sapeva nulla, perché diceva lei mi era sembrato sincero. Ora, in quel caso, la Bonino avrebbe dovuto preoccuparsi ancora di più ai inizi del 2 giugno. Inoltre, sembrerebbe che la Bonino avesse ricevuto, sempre in quel periodo, cioè agli inizi di giugno, una serie di fax da parte di ONLUS che si occupano di diritti umani, di rifugiati e via discorrendo. Ora, mi chiedo il motivo di queste esternazioni un po', direi, improvvide da parte della Bonino, prima ancora, ripeto, che il ministro Alfano decidesse di affidare a Panza una relazione scritta su quanto accaduto. Va bene, Salvatore, grazie. Appunto. Sì. Appunto. Gianfranco Rotondi, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, grazie. Parenzo, saluta, omaggia. Buonasera Rotondi, benvenuto alla Zanzara. Ma che c'hai? Non ho capito, perché hai questa voce di messa, Davide? Che è successo? No, dico buonasera Rotondi, benvenuto alla Zanzara. Sentiamo subito la difesa di Ma dove sei? Rotondi... Dove sei? Dove ti trovi? Per curiosità, dove ti trovi? Perché cambi di stanza, di posto continuamente. Dove sei adesso? Per curiosità. Non sono in casa. Ah, sei in casa. Sei in casa, sicuro, Sei in casa. Siamo sicuri. Vuoi sentire lo sciacquo del bagno? No, per carità. Scusi, Rotondi, ma secondo lei... Sentiamo la difesa di Alfano, forse. No, anch'io sono a casa, ma nel mio caso è una notizia perché sono in tanti che vogliono mandarti a casa e quindi ne trovate uno che c'è. Che già è a casa. Esatto. Cioè, sono in tanti. Io non capisco una cosa, però, Rotondi, perché bisogna legare le sorti del governo a quelle di Alfano? Cioè, se uno incappa in una storia, a prescindere dalle responsabilità... Che domande... se lei vuol fare una società con Ligresti e oggi tutta la sua famiglia è in carcere, c'ha l'impossibilità del socio, no? E se vuol fare un governo col PDL, al governo c'è il segretario, se lo manda via non c'è più il PDL. Però scusi un attimo, proprio il paragone con Ligresti, devo dire, non è bellissima. Brutalmente, mi sembra evidente che una parte del 5 Stelle, forse tutto il 5 Stelle, vorrebbe vederci tutti dove mi trovo io attualmente, cioè a casa. Vabbè, quello è normale, quello lo dicono. Il suo programma e va rispettato. Il problema riguarda questa, come si chiama, puppona che parla che si è candidata alle primarie del Partito Democratico, Puppato, ecco, non Puppone, mi veniva il nome. Puppone, ecco. No, vabbè, mi sono sbagliato, vabbè, capitale. Puppone, sì, Puppato che dice, ama Alfano, noi dobbiamo avere il coraggio di chiedere le dimissioni. Bisogna dire a questa signora, tu devi avere il coraggio, sì, mentre ti davanti allo specchio, e scoprire che di Alfano, di Berlusconi, di Rotondi, di Gasparri, della Santanchè, tu sei una alleata e ti devi comportare da alleata, se no sei una buffona con noi che per responsabilità verso il paese facciamo un'alleanza con te, se sei una buffona con i tuoi elettori, quindi se avete bisogno di battere l'agenzia Rotondi ha puppato buffona, no, ma non me la smentite. Domani lo facciamo, perché non si preoccupi. A forza di buffonate noi ci stiamo mettendo la politica sotto i piedi. Però scusi, la puppato, lei sta facendo l'esempio di una persona che cioè, gli fate schifo, ha capito? Gli fate schifo alla puppato. Ma intanto a me la puppato non mi fa schifo per il semplice fatto che non la conosco, essendo per la maggior parte degli italiani una sconosciuta fino a qualche tempo fa. Per cui è chiaro che è una persona che cerca visibilità, ma tutti stanno facendo un gioco sulla carne viva del paese. Vabbè, del paese. Rotondi, certo, scusi un attimo. Perché, parliamoci chiaro. Mica l'economia va a farsi friggere solo quando c'è Berlusconi al governo e non se ne va. Si va a friggere anche quando c'è un governo, Berlusconi lo sostiene, la puppato lo butta giù. Però scusi un attimo Rotondi, io non capisco una cosa, si può sopravvivere a un governo senza Alfano? Lei dice di no, perché non ci può essere un governo? Ma perché Alfano è il capo del partito più che Letta del Partito Democratico. Il vice segretario di Bersani, che il Partito Democratico con un'ottima scelta ha mandato a guidare il governo. Noi non abbiamo scelto nulla, perché dovendo andare al partito governo ci abbiamo mandato il segretario. Ho capito, però potrebbe anche rinunciare alla carica di ministro dell'interno, fare il vice premier e fare anche che il segretario del partito. Cioè, e si fa fare l'esame dalla Pato e da Repubblica e poi noi andiamo a spiegare che il capo delegazione del governo, il nostro ministro degli interni, lo scelgono gli editoriali di Ezio Mauro e le agenzie della puppato. Ma no, ma non c'è solo la puppato, ci sono i renziani, per esempio, che sono per le dimissioni di Alfano. Guardi, questo Renzi è una speculativa che il pungiglione di Rotondi comincia a pungere. Cioè? Renzi è il prodotto più classico del paraculo democristiano, addirittura, che non è la grande DC rappresentata da Letta, da Alfano, se permettete anche da me. Beh, la democrazia cristiana vera, quella dei valori, quella che si prende le responsabilità. E che cos'è invece? Cos'è? Quella, no, è il signore che sceglie prima dove c'è lo spazio e poi va a piantare lì la bandiera. E come lo si può definire? Un paraculo? Ma un anche paraculo non è poi un'offesa, perché lui è uno che quando Forlani comandava la DC da ragazzino scriveva basso Forlani, rottamiamolo. Poi è andato avanti sempre sullo stesso schema, ha fatto l'assistente di Mistelli, poi si è smarcato, gli hanno dato la provincia, tiè, gioca lì, ma lui non ha giocato, è andato a rialzo, si è presentato alle primarie del comune, alla fine per disperazione hanno detto, beh, gioca lì, e lui gioca al rialzo, rialza sempre, ma adesso nel gioco al rialzo, in cui è bravissimo, perché paraculo non è un'offesa, sì, è anche la identificazione, se volete, di una parte dell'identità italiana, perché agli italiani questi tipi qui poi alla fine piacciono. Appunto. Per cui, tanto di cappello a Renzi, ma in questo momento lui nel gioco al rialzo travolge gli interessi del paese. Vabbè, ma quelli, perché c'è un uomo del suo partito che è bravo, certamente più di lui, Letta, conosce i problemi del paese, certamente più di lui, che oggi che ha difeso Alfano, assume responsabilità, e stiamo parlando di rispetto, e di fronte a uno sforzo che i due principali partiti fanno, dando tanti pizzichi. Ho capito, ma Alfano qualche per sopportarsi, perché è evidente che PD e PDL debbono sopportarsi nell'interesse del paese. Qual è il contributo di quello che gira l'Europa e il mondo, che attaccare si fa fare il governo, lamenti con Obama per dire guiderò l'Italia, il contributo che scassa l'Italia, la butta in default e ci mette peggio dello spread berlusconiano evocato spread. Ma io non devo andare dalla Merkel, posso parlare anche con l'età. La zanzara che pungere il vino. ragazzi, diciamo la verità, anche se come sostiene non sapeva nulla, è ancora peggio, c'è una responsabilità politica. Ammettiamo che i funzionari abbiano commesso degli errori, lo hanno ammesso anche loro, che ci sono state delle pressioni kazake mal gestite eccetera. Alla fine la responsabilità è sempre politica, cioè non è che tutto può essere giustificato in nome della tenuta del governo. Caro Rotondi, lei ha una cosa da rimproverare ad Alfano? Avrà commesso pure un errore in questa vicenda delle due kazake, oppure lei pensa Michel Papa su che errore? Ha spiegato che non è stato informato. Vabbè, i fatti peggio, mostrano peggio che la filiera di comando lo ha saltato, e tant'è che vi sono stati autorevolissimi e stimati funzionari che hanno pagato in prima persona. A parte che non è vero che uno ha detto oggi che aveva informato all'inizio Alfano, poi si è corretto. Mi sembra chiaro che la decisione di Alfano sia stata presa sulla base di una relazione del capo della polizia, quindi insomma. Sì, ma lei ha mai visto un capo della polizia che mette in difficoltà il ministro degli interni in una relazione? Su, dai, non siamo banali su queste cose, lo sa anche lei. Non riesco a capire perché un capo della polizia non dovrebbe mettere in difficoltà. Perché è stato nominato da lui? Dice, ma no, se il ministro degli interni dice una bugia, il capo della polizia che sì, in quale paese? Una fedeltà alla Repubblica. In quale sogno? Ritengo che non gli dia ragione, quindi mi sembra assolutamente che sia una rappresentazione non... No, però scusi, al di là di questo, al di là dei dettagli che sono tantissimi ovviamente, il punto fondamentale è un altro. Di fronte a un errore evidente, perché poi se l'espulsione è stata revocata c'è stato un errore, di fronte a un errore evidente, la responsabilità è sempre politica, sempre, lei lo dovrebbe sapere bene, Rotondi, dai. Assolutamente no, perché se il politico è stato saltato sono emerse altre responsabilità. Ma se è stato saltato, però, peggio. Rotondino, è un'opinione la mia, è un'opinione la vostra. Ho avuto tutto il tempo io di dire la mia. Certo. A favore di Alfano, avete giustamente ragione di riequilibrare. No, che c'è, Parenzo, che amico, c'è? Amico Rotondi, voglio dire una cosa al compagno Rotondi. Al compagno Rotondi dico questo, le cose sono due, tertium non datur. O gliel'hanno messa nel sottocoda al signor Alfano, e quindi c'è un grande complotto della polizia, per come lui sta sostenendo. È interessante la tesi di Rotondi, cioè c'è un complotto della complotto, mi sembra che si sia la devi dire tutta, Rotondino, la devi dire tutta. No, ma non ha detto questo, non ha detto, no, ha detto che c'è la volontà di metterlo in difficoltà. Mi pare. No, ma scusa, non vi accavallate, Davide, su, ma dai. Ci sono anche aerei che cadono per un banale disguido, quindi disguidi anche banali possono provocare disastri. Sì, no, d'accordo, però. Ma lei i disguidi, quando succedono cose di questo tipo, la responsabilità è sempre della politica, certo, in primis, non può essere dei funzionari Rotondi, anche se il ministro non sapeva nulla, cosa difficile. Assolutamente no. Se il ministro non sa nulla, non sa nulla. Uno non può essere. Ma è peggio che non sappia nulla, a parte che non è vero perché è stato informato del fatto che l'ambasciatore kazako, eccetera, eccetera. Non è vero. Il caso mi sembra abbastanza chiuso. E come chiuso? Ma quelle due stanno in Kazakistan, fine, quelle due stanno in Kazakistan. Sono casi che montati con tutta l'arte di questo mondo durano quanto le notizie di giornale, cioè 24 ore. Ma non è vero, è 4 giorni che se ne parla, 5-6 giorni, altro che... Altre 24 ore. Ma come altri? Perché lei minimizza così queste cose? Non minimizzo, ma quando ha spiegato le cose al Parlamento, i due maggiori partiti hanno dichiarato di esserne convinti, ci può stare la puppato che fa l'agenzia, un altro paio di puppate, vabbè ma non c'è solo la puppato, mezzo partito democratico potrebbe votare la sfiducia venerdì. Questo lo devo ancora vedere. Poi Renzi, da capo aspirante del PD, vuol fare il capo dei falchi del PD e del PDL, farà un nuovo partito di Renzi col falco nel simbolo. Scusi. No, ma scusi, ma quando al Ministero degli Interni c'erano personaggi del calibro di Mancino? Ma gente che era lì, che telefonava, che brigava, che aveva rapporti che sapeva tutto, non con l'altro, che lavorava. Io con Mancino ho fatto la mia prima campagna elettorale e l'ho vinta, quindi... Ma appunto, Rotondi, uno non può fare il vice premier, il ministro degli interni e il segretario del partito. Quando chiamava l'ambasciatore kazako, pare che fosse al partito... Devo ricordarle che è un pezzo di storico, io non ho vissuto e manco lei, perché siamo troppo bambini per ricordare queste cose, ma Fanfani, che aveva 3 incarichi, si beccò un editoriale di Gorresio che scrisse: ci dica in quale orario fa il ministro, in quale segretario del partito, in quale... E poi Fanfani rispose: chi è bravo trova un'ora per tutto. Ho capito, però, scusa, però, Rotondi, però si quello, parla in queste ore. Io, scusa, dimmi. Quello che voglio dire io è un'altra cosa. Cosa? Quando c'è un ministro degli interni autorevole, forte, no? Che è lì come nella Prima Repubblica, c'è allora, il dossier, allora? Telefono, i servizi, complotta. Io voglio quello, voglio un ministro degli interni che complotta, che telefona. Non che non sa niente. I servizi, non che non sa un cazzo. Dai, su, Rotondi, dai. Scusa, io trovo che Alfano inizi un'esperienza nuova che completerà con tutta la bravura che ha dimostrato da ministro. Vabbè, adesso non faccia la cosa. Scusi un attimo. All'interno ci vuole uno che parli con i servizi, che brighi, che faccia. Non che perda tempo a parlare di falchi e colombe. Dai, su. Però scusi un attimo, Rotondi, io dico una cosa. Se Renzi fa il partito del falco, io faccio quello della colomba, d'accordo? Scusi un attimo, un'ultima cosa. È un bipolarismo interessante. Si parla in queste ore di idee valide. Si parla in queste ore di un possibile ricambio, cioè dire ci potrebbe essere un altro esponente del PDL agli interni. No, con questo non lo dico a titolo personale, lo dico a nome del partito, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che su Alfano si gioca la tenuta del governo. Quindi l'idea che si fa circolare che noi possiamo lasciare Alfano, ma non lasciare a giocare con le bambole e mettere ministro degli interni un altro, è un'idea di chi vuole la crisi di governo. No, vabbè, ma giocare con le bambole, fa vice premier e segretario. Con le bambole, con Cicchitto gioca, magari con le bambole. Lasciamo perdere. È chiaro, perché giocare con Cicchitto, con la Santa Cruz. Vice premier e ministro degli interni per segnare la massima presenza. Vabbè, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi cosa faccia, resterà ministro. Anche se ammazza sua moglie, è ministro degli interni. No, se fa degli errori riconducibili a lui, è un altro discorso. Vabbè, grazie, Rotondi. A presto, grazie. Grazie. Grazie a no, voi. Un attimo, ma scusate, mi fa no, aspetta. No, abbassato. Vabbè, pazienza. No, ma scusami, è un messaggio deflagrante che manda Rotondi. Vabbè, sarà deflagrante. C'è Alfano al Ministero degli Interni, ognuno fa quello che cazzo gli pare, ma invece agli interni ci vuole gente che persone come, non so, ti ricordi il vecchio responsabile Pecchioli, ma la gente non lo conosce, non pronunciare nomi, ma chi se ne frega, uomo. Chi se ne frega. Oh, andiamo, Roberto da Piacenza, buonasera. Buonasera, ma prima ci si chiedeva come mai Pannella ha sbloccato così. È semplice, perché fa l'urinoterapia. Lei, Cruciani, pensava all'urinoterapia, che è una stronzata di proporzioni di dismisura. Allora, l'urinoterapia significa bruciare le cellule cerebrali con l'urea. Se il nostro organismo tutta la notte fa una fatica da matti per segregare l'urea nella vescica e poi c'è un imbecille che alla mattina si beve l'urina, allora è chiaro che poi diventa, nel tempo, con gli anni, diventa un imbecille. Allora io la esorto, Cruciani, se non ha ancora smesso, a smetterla con questa stravaganza qua. Che ma veramente io non l'ho ancora provata l'urinoterapia, non l'ho ancora provata. Poi se vuole la provo, No, io l'esorto anche... avrei voluto farvi ridere come ieri sera abbiamo riso col carro armato, perché ieri sera ci siamo piegati in due col carro armato. Io non ce la faccio questa sera a farvi ridere, mi spiace. Va bene, grazie. Paola da Parma, buonasera. Paola? Paola? Paola? Che pazienza. Che stava facendo? Pronto? Scusi. Pronto? Che sta... Sì, che pronto, stava... Paola? Sì, sono io. Mio nonno. Paola? Sì, sono io, mi sente? La sento, dica. Ecco, io mi chiedo, non riconoscete a Caldaroli l'unica vera vena di antifascismo? Noi cantavamo "Faccetta nera sarai italiana". Ma chi la cantava? E per bandiera tu sarai romana, e per bandiera tu saprai quell'italiana, e noi marceremo insieme a te, sfileremo avanti al Duce. Ma Tore Caldaroli dice no, io non lo voglio fare. E tutti noi siamo qui a chiedere che diventino italiani. Allora, qualcosa di buono nel fascismo c'era. Sì. Signora, dove si trova lei esattamente? È partita. Dove si trova? Io mi trovo nella mia casa, in provincia di, cioè nel comune di Langhirano. Sì. Nella sua casa di cura. C'è una casa di cura, sì. C'è una casa di cura. Dov'è esattamente? Che zona è esattamente, signora Paola? Posso dire Castrignano Costa. Sì, mandatemi. Che bei tempi quelli del Duce, signora Paola. Bei tempi. No, bei tempi, io non lo so. comunque era così, era così. Era così. Faccetta nera sarai romana. E per bandiera tu avrai quella italiana. E vabbè. Ius soli. Che d'accordo. Tempi, che tempi, che tempi. Arrivano. Ragazzi, arrivano. Ho scherzato. Siete deliziosi. Arrivano. Vi aspetto tutte le sere. Vi ascolto no. come un gran divertimento. Well now, little mosquito, there must be well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, sir. Yes. Il signor Calderoni che ha detto quella roba e il signor Borghetti che ha detto altra roba altrettanto tremende sono scimmie. È rimasto la scimmia perché non ha coscienza. Le persone senza coscienza sono scimmie e purtroppo ce n'è tante. Lei sa che non tutte le scimmie sono diventate umani, alcuni sono rimaste scimmie. A me fa specie che persone come queste scesano in Parlamento, insomma, no, è un problema. La ministra non solo non è una scimmia, è un'umana a tutti gli effetti perché è una persona molto intelligente che dice cose molto intelligenti, lui invece che dice cose tremende senza coscienza è rimasto scimmia e quindi si deve dimettere da umano. E poi la fatua, Calderoli non può entrare nell'Italy. Io inaugurerò l'Italy allo Smeraldo a Milano il 26 novembre, inviterò Maroni, no, Calderoli è vietato l'ingresso alle scimmie per motivi di igiene dentro tutti gli Italy. Oh, c'è un assessore che si chiama Andrea Monti, un assessore alla provincia che andrebbe cancellata di Monza e Brianza, Andrea Monti, il quale scrive: Farinetti è un pirla e quando aprirà il suo bivacco snob all'ex Smeraldo andremo a trovarlo. Ora, voglio sperare che andremo a trovarlo sia magari per una felice manifestazione di protesta davanti al futuro negozio ristorante del signor Farinetti, perché sì. La minaccia andremo a trovarlo suona un po' sinistra. Speriamo. Lavinia da Roma, buonasera Lavinia. Buonasera a tutti. Allora, io ammiro da sempre Sgarbi, però vorrei dirgli una cosa, di calmarsi, perché non vale la pena prendersela per questi incompetenti, non ha senso. Ma quello reagisce così, si appassiona, è normale, su. Sì, ho capito, però mi sembra più Grillo che Sgarbi, perde la sua natura, la sua intelligenza, la sua lucidità. Vabbè, che ha detto di strano, in galera quello, in galera quest'altro, dai su. No, si è arrabbiato da morire in maniera eccessiva, non vale la ma pena. Lei non l'ha mai sentito allora, scusi, non è mica la prima volta che fa così. No, l'ho sentito, ma è proprio per quello che dico, poi si fa venire un infarto, deve stare tranquillo, deve stare sereno, non vale la pena per questi incompetenti, veramente, piuttosto arrabbiamoci e cerchiamo di mandarli a casa tutti quanti questi. Vabbè, Angelo dalla provincia di Napoli, grazie. Grazie, Angelo. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi, Angelo. Io volevo solo intervenire in questo senso, cioè dopo aver sentito rettangolari, quadrati che parlano del nulla, sempre quei soliti discorsi, io dico meglio Marco Pannella tutta la vita che fa il pazzo. Aridaglie! Che questi che parlano dello zero assoluto, sempre a pensare al posto nella provincia, il posto così, Alfano colì, Alfano di giù, hanno perso di vista qualsiasi principio, fanno solo i cazzi loro e poi uno si lamenta perché l'Italia sta in queste condizioni, sono 60 anni che comandano loro in questo modo, senza un briciolo di ideale, senza un briciolo di aspirazione a fare qualcosa di meglio, solo a conservare il posto per loro, per la famiglia, per la zia e a giustificare pure l'impossibile. Poi riguardo alle carceri, io quello che dico, siccome lei Cruciani è una persona intelligente che io stimo e apprezzo a prescindere da tutto, dico ma almeno lei faccia uno sforzo di essere un po' più anche lei, diciamo, sopra questa media che è sotto lo zero. E invece di prendere in giro chi cerca di portare avanti un po', perché la gente in carcere soffre, la gente in carcere si suicida, muore, si veda un film che si chiama Hunger, del regista Steve McQueen, da non confondere con l'attore che è morto e deceduto, che è un bel film che parla delle carceri in Irlanda nel 1984. E poi sì, e poi sempre questo fatto, e poi va bene, come se lei fosse... Ma lei, diciamo, io dico, non dico che deve dire sì, ha ragione, però dico un tono, diciamo, più... Io sono una persona che è stata un'ora al telefono a sentire le cazzate di Rotondi per parlare con lei. Nessuno l'ha obbligata. E quindi voglio dire, per i tre, almeno il rispetto, no, di dire, ma non c'è... invece di ricongedarla con un e poi e un lei, e che vuole, che dice, dice, ma sto... ho capito, va bene. Ho capito, che le devo dire? Ma, civile, ma che le devo dire? Calderoli si giustifica da solo, sì. Perché basta che fa sentire una trasmissione come questa e dice, se quelli che sono più intelligenti di me, sì, concedono così le persone che hanno avuto l'educazione di aspettare un'ora al telefono, allora io posso chiamare pure la gente. Ma io non... Senta, Angelo, sia tranquillo. Vabbè. Io, e a parte che liquido chi voglio e come voglio, il sì, problema. Sì, ma lei fa quello, ma che il problema vuole, io non, che no, non l'ho liquidato per niente in realtà. La stavo ascoltando, il fatto, capito, che lei si appassiona al tema delle carceri e va benissimo. Sì, ma va benissimo. Non è quello di cui stiamo parlando. Cioè, lei confonde le cose. Io sto semplicemente ridicolizzando o prendendo in giro Pannella, che ha sbroccato al TG1 questa mattina, a Rai 1 questa mattina. Ma Pannella si prende in giro da solo, perché Pannella si prende in giro da solo. Ho capito, ma io di quello parlavo. Ma non volevo aprire la discussione sulle carceri. Ma chi se ne frega? Se uno sbrocca, sbrocca, basta. Guardi, ma nella storia, tra 100 anni, non si ricorderanno di quadrati, di rettangolari, di rotondi. Si ricordano di Marco Pannella. Può, cioè, darsi, c'è un motivo, può darsi, per cui lo ricorda, può darsi. Perché le cazzate che dice adesso non si capiscono quello che ha fatto per 50 anni Marco Pannella. Ma qui non stiamo facendo il monumento a nessuno. Ridicolizza, tra parentesi, ridicolizzare un uomo che non ha potere. Perché Pannella non ha potere. Senta, Angelo, io non sto ridicolizzando. Ridicolizzare un uomo di potere. E cioè, voglio dire. Cosa che facciamo si sempre? Non permettere di ridicolizzare un uomo che non le può rispondere perché non ha la sua stessa capacità di risposta. Ma in come no? Momento. Ma come no? No, non ce l'ha. Perché senta, non può, il non problema può è. Angelo, lei deve stare calmo. Lei è un supporter di Pannella. Va benissimo, ci sta che lei sia un supporter di Pannella. È un grande tifoso di Pannella. Va benissimo. Allora, perché io, Pannella, io voglio dire, io per esempio ci sono tanto rimasto male che ha Daniele Capezzone l'hanno mandato via. Vabbè, Angelo, ma lasciamo perdere adesso. Sono tifoso di Marco Pannella. Ho capito, ma se uno sbrocca, sbrocca. Se uno sbrocca, sbrocca, punto. E ha sbroccato. Io... Ma quello sbrocca tutti i giorni. Quello sbrocca tutti i giorni. Sì, ho capito. Qualcuno dovrebbe prendersene cura, secondo me, perché è controproducente. Questo è il mio parere. Grazie. Sì. Grazie, Angelo. La zanzara capricciosa, la zanzara. Beh, qui abbiamo un grande personaggio, Parenzo, grandissimo personaggio. Te lo dico subito. No, una persona che ci racconterà il futuro della politica. Secondo te chi è? Barbara Spinelli. Ma che c'entra Barbara Spinelli? Dai, su, ma smettila, che c'entra Curzio Barbara? Curzio Maltese. Ma va, Curzio Maltese, sei impazzito adesso, Curzio Massimo, Maltese. Massimo Giannini. Ma quale Massimo? Tutti quelli di Repubblica. Allora Paolo Franchi del Corriere. Ma no. Ma Ferruccio, no. De Bortoli. Ma che c'entra, dai. Ah no, bravo, no. Molto bello, Magris. Magris è un grande intellettuale. No, scrive, ma non c'entra niente. E sopraffine. Ma guarda, Magris, questa persona qua che ti presenterò è innanzitutto un fisico cibernetico, che però è diventato anche, con metodi sofisticatissimi, è diventato anche astrologo. Andrea Celada, buonasera. Pronto, sono Marco Celada. Marco, perché mi scrivono Andrea qui? Perché mi scrivono Andrea? Capre! Mi hanno scritto Andrea, invece Marco Celada. Su. Eccomi. Eccoci qui. Astrological coach, giusto? Sì. Che io, vuol dire? Questo è il nome della mia professione. Ma cioè, che vuol dire astrological coach? Il contributo degli astri, guido le persone verso la strada migliore, la scelta migliore. Quanti clienti ha lei, signor Celada? Parecchi. Anche politici? Anche politici. Beh, qui urgono dei nomi, politici, Urgono dei nomi. I nomi per professionalità non si possono fare. Cioè, quanti però politici? Ci sono diversi politici. Anche importanti? Anche importanti nelle diverse aree politiche. Che si rivolgono a lei? Che si rivolgono. Ma che vogliono sapere da lei? Che vogliono una specie di branco. Ma vogliono avere qualche indicazione, ma principalmente vogliono avere l'indicazione più importante che si può avere durante un anno, cioè? È quella di sapere il luogo dove si deve trascorrere il giorno esatto del compleanno. Ma perché, scusi, ma perché uno dovrebbe interessarsi al luogo dove... No, vabbè, ma fa l'astrologo. Semplicemente perché trascorrere il momento esatto del compleanno, che è un minuto preciso, come un bambino che nasce, in un luogo o in un altro, il destino dell'anno è differente. Cioè, mi spieghi, se io sbaglio a trascorrere quel minuto in un posto dove non dovrei essere, sì, mi butta male. Sì, oppure potrebbe. Le cose, gli eventi che succedono si gestiscono con maggior difficoltà, quindi fare il compleanno nel luogo migliore consente di avere più opportunità di gestire meglio anche quelle situazioni difficili che possono capitare durante l'anno. Mi dica la verità, lei davvero crede che se uno non passa il compleanno dove secondo le sue teorie dovrebbe passarlo, poi alla fine non tutto va per il verso giusto? Assolutamente. E se uno invece passa il compleanno proprio in quel luogo? Assolutamente sì, perché calcolare il luogo ideale del compleanno significa vivere meglio durante l'anno, significa utilizzare l'energia dei pianeti per gestire al meglio le situazioni che si possono verificare. È il principio base dell'astrologia. Cioè, l'astrologia ma lei è un fisico cibernetico, non è il mago Telma. Con tutto il rispetto per il mago, per il divino, l'ho chiamata mago, non c'entra. Ma è proprio per questo che mi sto battendo in tutti i modi per divulgare la scientificità dell'astrologia. Cioè, perché l'astrologia funziona? Parenzo, hai capito? Impara, eh? No, ma io su questo, guarda... Ma sull'astrologia, voi sei diventato pure tifoso dell'astrologia? No, però ti dirò, su cui ho fatto degli studi approfonditi su questo, perché me lo sono fatto fare, ti rivelo una cosa, me lo sono fatto fare anch'io, non dal signor Celada. E da chi? Ma da un'altra, un'amica carissima, che sei fatto... Bailetti, un'altra astrologa. Ti sei fatto fare Claudia una cosa? Claudia Bailetti. Laico, miscredente. Liberale, te lo spiego. Ti spiego questa cosa bellissima, perché è vero, cioè è interessante, vedere come l'incrocio dei pianeti, il passaggio dei pianeti. Ma dai, su, non ci posso credere, dai. Il giorno in cui... Tu sai perché sei così? Perché sei nato male e perché il giorno del tuo compleanno stai nei posti sbagliati, quindi diventi sempre più cattivo. Scusi, signor Celada, lei dove passa i suoi compleanni? No, per curiosità, però. Prossimo compleanno lo passerò in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda? Cioè, lei spende un sacco di soldi perché vuole seguire queste teorie. Celada, non ci posso credere, dai. No, spenderò anche un sacco di soldi, ma non sono poi così tanti i soldi che spenderò. Però sono sicuro che alla fine dell'anno potrò dire che ho gestito al meglio le opportunità, le situazioni che si sono create. Cioè, noi dobbiamo capire una cosa base, che quando un bambino nasce, supponiamo un bambino che nasce in questo momento, se questo bambino nasce a Milano o a Roma, o nasce a Sydney, o nasce a New York, o nasce a Boston, ha una fotografia del cielo differente. Quindi, siccome i pianeti ci buttano energie, ma lei fa il fisico cibernetico. Queste energie sono, è proprio la scientificità dell'astrologia. Ma lei è un fisico. Che le nostre molecole d'acqua siano influenzate dall'input energetico che ricevono dai pianeti. Mi dica la verità, Letta è venuto da lei? Letta è venuto da lei? Non ancora. Non ancora, ma per Letta c'è una previsione, quindi è nato il 29, che giorno è? 20 agosto del 66 all'ora 19:40 a Pisa. Dunque io gli ho consigliato, dalle scritture che faccio sul mio blog, sui miei articoli, di non fare il compleanno in Italia. Cioè nel prossimo 20 agosto, cioè tra un mese circa, c'è il compleanno di Letta, che fa 47 anni, perché avrà molta più difficoltà a gestire le situazioni della sua vita. E dove gli consiglia di andare? Ad esempio, mi interesserebbe capire questo, Fabrizio Cicchitto. Aspetta, no, ma non può fare delle previsioni così al volo, no? Scusi un attimo, Celada, torniamo a Letta, che è il presidente del Consiglio in questo momento, la carica più importante che c'è in Italia, per modo di dire. 20 agosto 66, 19:40 a Pisa. Dunque, lei dove gli consiglia di andare? Ha studiato la questione? Allora, io ho studiato la questione e gli ho consigliato, ho scritto, che dovrebbe fare il compleanno in Thailandia. In Thailandia. In Thailandia. Ma il premier non può andare. La configurazione astrale che avrà a Roma, immagino che sia a Roma, a parte che agosto è 20 agosto, potrebbe essere a casa sua. Magari qualche giorno di ferie riesce a farlo anche lui. Vabbè, comunque. Comunque, se farà il compleanno a Roma, la configurazione astrale, cioè la posizione dei pianeti in quell'esatto istante, nel momento del ritorno del sole sulla posizione natale, cioè il momento esatto del compleanno, sarà difficile, quindi riuscirà difficilmente a gestire situazioni varie. Cioè, per l'Italia potrebbe essere un disastro, siccome lui è il capo dell'Italia, cioè insomma è quello che ci governa, è la cosa perché ha incuriosito, anche perché preoccupa anche me, perché quando il capo... Ma lei è davvero preoccupato su questa questione, insomma io spererei che il mio capo, in questo caso il capo del governo, fosse astrologicamente positivo, in modo tale da guidare al meglio il paese. Ora lui lo guiderà. Ma dove deve andare? Dove deve andare per evitare guai? dovrà appunto andare in una località della Thailandia. Come si chiama sta località? Si questa sa, località già? L'ho studiata e pure. Vabbè, adesso la posso nel frattempo recuperare, vado a riprendere lo studio. Allora, la località di Enrico Letta, nato il 20 agosto del 66, la 1940, così pubblicato, sì, a Pisa, sì, è Hua Hin, in Thailandia. Così. Dunque, diamo qua un consiglio definitivo al Presidente del Consiglio. Caro Letta, prosegua lei, Celata. Non fare il compleanno, non trascorrere il momento del compleanno a Roma, sì, il compleanno sarà il 20 agosto alle 2:21 di Greenwich, sì, quindi alle 4:21 dell'orologio di Roma. Sì. Non a Roma, perché la situazione astrale è difficile, sì, e quindi gestirà con difficoltà le situazioni della sua vita, ma dovrà trascorrere la Hua Hin. In Thailandia. Spostandosi in un luogo, sì, dove il sole, dove sorge prima o sorge dopo, noi sfruttiamo in pratica la, sì, rotazione della Terra, avrà una configurazione astrale molto più gestibile, seppur, dico, in una situazione politica difficile, perché le mie previsioni politiche, sì, indicate con diversi mesi fa, pure lei, danno una che forte difficoltà. Anche lei, come il divino, anche lei come il divino fa le previsioni politiche. Parenzo, ribellati a questa cosa. Io metto insieme tutti i dati dei politici e quindi estraggo dei grafici. Sì, quanto dura il governo? No, ma questo... Vai, Parenzo, ma se te la prendi tanto con il divino, perché invece grazie no, il professor Celada? Perché è una roba diversa, perché una cosa è diversa, perché quello lì intanto si presenta, ma è abissalmente diverso, e quello lì è un personaggio. Comunque mi dicono che Alfano già si sapeva sia un grande appassionato dell'astrologia, me lo conferma professor Celada? Non è che Alfano vada lei, no? No, Alfano non è un mio cliente. Alfano è sicuramente una persona che quest'anno è in primo piano. Vabbè, questo non ci voleva, però sì, professor Celada. Professor Celada. Però attualmente è una... No, beh, professore, questo però, ma lo vedi Parenzo, però questo okay. Questo professore, scusi, questo non doveva dirmelo, perché io l'ho difesa fino a poco fa. Esatto. E lei ha detto con rispetto, professore. Io rispetto dei pianeti che girano, gli dovete andare al compleanno, sono cose che per me vanno benissimo. Se lei però, caro il mio professore, Celada, oggi vedi professor Celada, oggi mi dice che Alfano, come che ha detto Alfano? È in primo piano, è in primo piano come ruolo, nel senso non in primo piano. Sì, ho capito, però non si bilanci così tanto. Che Alfano avrebbe avuto un ruolo di primo piano, sì, primo piano al di fuori del suo partito, tant'è che è vicepresidente del governo. Sì, d'accordo, però la sua posizione astrale è anche alto rischio, ma no, ho detto scritto. Ma no. Che il giorno 15 luglio, lo vedete, questo non posso tollerare sul mio blog, sì, sarebbe stato un momento importante, molto critico per il governo. Sì, d'accordo, però lei quando l'ha scritto, scusi, questa cosa qua, quando l'ha scritto? Adesso, 5 minuti fa. L'ha scritto, ieri l'ha scritto. L'ho pubblicato sul mio blog diversi giorni fa. Quando era scoppiato il caso Kazako, però. Non sono in Italia, per cui se voi andate sul mio blog e vedete le ultime pubblicazioni che salgono a 15 giorni fa. Professore, comunque, la cosa principale è quello che dobbiamo dire a Letta: non passi il suo compleanno in Italia, bensì in una località della Thailandia. E in Italia vedremo. Grazie professore, il consiglio è andare in Thailandia, la interpelleremo ancora. Grazie professor, anche Celada. Grillo non deve fare il compleanno in Italia. Grillo, poi ne parliamo tutti, allora. Ma chi è che deve fare il compleanno in Italia? Nessuno. Lei consiglia sempre località lontanissime ed esotiche. No, non è vero, io ho fatto forse il compleanno più bello che ho fatto negli ultimi 19 consecutivi è stato in Italia, quindi non è detto, certo, che perché guardando il planisfero, che il luogo ideale per fare trascorrere il compleanno sia nel luogo dove noi abitiamo è improbabile. È molto probabile. Spesso capita lontano. Certo, innanzitutto lei è stato ad Auckland, a Seul, a Malé, ad Acapulco, ad Agadir, a Bombay, in Turchia, a Ixatapa, a San Paolo del Brasile. Vabbè, esatto, un compleanno l'ho fatto anche a Milano. Un compleanno. Ma lei c'ha un sacco di soldi, però. C'ha un sacco di soldi, questa è la realtà. Altrimenti non farebbe così. Quanto costa una consulenza da lei? Se uno viene a fare una consulenza consulto rapido con l'astrological coach. Ah, dipende. Siamo su 300. Deve essere seguito per tutto l'anno. È un po' consulto che può tutto essere tutto l'anno. Quanto può costare? Compleanno, chiaramente è un prezzo tipo un prezzo accessibile. Sul compleanno quanto può costare? Può costare la 500? No, un pochino meno. Parenzo, ci possiamo andare, che dici? Ma adesso che mi ha detto questa cosa qui, che Alfano diventerà un personaggio discusso di primo piano, non lo so, forse adesso. Grazie professore, grazie. Okay. come zanzare. Anna da Milano, Anna, dica. Buonasera, non sono di Milano però. Vabbè, sono uguale. Per caso con un cellulare prestato. Vabbè. Ho viaggiato. Ce ne faremo una ragione. Accompagnata dalla vostra trasmissione. Bene, siamo contenti. Devo dire no, che io non sono per niente contenta. Vabbè, anche questo. Sono seccata di ascoltare tutta questa aggressività gratuita, sì. Ma non ne avete abbastanza. Io sono anche io sono abbastanza aggressivo, le dispiace? Molto, perché pazienza. Trovo che è una mercanzia che è quasi gratis in questo periodo. Può darsi che può darsi, Anna, può è darsi. Quasi gratis e totalmente inutile. Sono fatto così, mi vuole impedire di essere. E tra l'altro quell'altro poi che tira la catena del bagno. Del cesso, si tira la catena perché non si può andare in bagno? No, non si può andare in bagno? La non vita si può... non mi ascolti. La vita non, non è una catena, però. Come, scusi? La vita non migliora con le parole. Ma non, le parole non c'entrano. Anzi, più gradevole. Ha tirato la catenella del cesso. Ma non è una catena, questo è il problema. Vabbè, è uguale, un pulsante, uguale. Ma no, beh, è diverso perché la catena implica proprio. Qui invece devi fare push, capito? Devi fare push. Prendere. Ma qual è il problema? È una cosa di cultura. Quindi, scusi, Anna, ma. Per l'inglese, ma no? Se uno va in bagno e spinge il bottone push per tirare l'acqua, uno fa un'operazione normale di igiene, no? Qual culturale. È il problema? Ma che culturale? Politica, ma secondo voi politica? Ma no? Questa è la vita, è la vita. No. Noi rappresentiamo la vita. No, siamo voi qui. Rappresentate due. Cosa? Insopportabili. E lei perché ci ha ascoltato tutto il tempo? Perché lei ci ha ascoltato tutto il tempo? Perché non avevo altro da fare, ero in coda e non avevo neanche voglia, non potevo neanche schiacciare. Ma quando mai? E perché cos'era? Impedita? Che cos'era? Ero da sola. Era attratta da questa melma. No, era attratta da questa fogna. Volevo sentire fino a che punto arrivavate. Lo vede? Non dire niente. Era attratta da questa fogna, era attratta da questa melma, dal fango. Era attratta terribilmente. Vede che lei si sopravvaluta. Può darsi, può darsi. Perché si dà della fogna. Può darsi. Ma io ero un qualunque personaggio abbastanza squallido. Squallido, sì, però intanto ha ascoltato tutto il tempo. Tanto ha ascoltato tutto il tempo. Tempo con le sue parolacce, sì. Con le sue e mi pagano catene, anche tanto per e mi pagano anche tanto per questo, capito? Guardi, questo beh, ma questo non depone a favore del Sole 24 ore. Ma ha capito, mi pagano anche tanto, tantissimo, ha capito tantissimo per la fogna, per la cloaca, gente, per la cloaca mi pagano tanto. C'è tanta gente che non ha sì, compresa lei. Da fare e che no, ma io la saluto. Compresa lei. Non l'ascolto mai più però. Compresa lei, l'abbraccio. La abbraccio fortissimo, Rosanna dalla provincia di Imperia. Ah, buonasera, Cruciani. Dica. Senta, io volevo intervenire su per Rotondi e sì, dica. È partito. Allora, volevo dire di andarsi a guardare Totò. Sì. Nel film siamo uomini o caporali. Sì. E loro si dividono in caporali qua qua qua e Alfano è un qua qua qua insieme a tutti i politici italiani. Vabbè, tutti i politici italiani, buoni, adesso si limita tutti. Ad Alfano, guardi, si limita ad Alfano. Mi limitava a Fano. Grazie, ci sentiamo domani 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Risparmiare? Si può. Stazioni di servizio Costantin. Dove fermarti? Ti conviene. Vi ha presentato La Zanzara.